7, 8, 8, 9, 10 però io ce l'ho. Mi sembra strano, eh? È quel rumore che si sentiva qualche tempo fa. Io c'ho qua la donna, è stata con 5 e basta, non c'ho altro. Poi dall'altro invece fa non ho capito perché. Quello è 8, 9, 10. È un rumore di. È un rumore loro, L'ho già sentito 3 volte, vabbè. Non si sa mai che stiano bisogno da qualcuno. Però ce l'ho io nell'8, nel 9 e nel 10. Ok? Vai, rimango in ascolto, ci sentiamo dopo, c'è gente. E io, vabbè, sto spegnendo la cosa che mi si brucia. Io non ce l'ho quel rumore, adesso vado magari a controllare sul 9 o l'11 alfa. Ehi, io sono molto aperto, ovunque siano, il telescopio come mi entra, l'ha sempre fatto, capito? Vabbè, occhi aperti comunque, il rumore è quello, non c'è niente da fare. Va bene. E io, vado a girare la direttiva delle due a vedere, ci sentiamo dopo. Ok. Oh, Antonè. Dimmi. Qui c'è Marco, ti sta chiamando sul canale 20. Adesso vado. Il capo di 20 mi chiama. Vabbè, adesso vado su 20. E io ho due baracchini accesi, non qua, uno lì, capito? Vai, che ti sta chiamando. Ehi, ok. Giulio! Attento, CR7! Giulio! Attento, CR7! Ehi, ti ho chiamato un po' fa. Oh, CR7! Aspetta che sto sistemando il microfono. Sistema. Guarda che c'è il segno per mettere il pallone, se no non riesci a segnare. Ecco qua, era ora, ciao qua. E mi è andato giù, fissure. Anche le lacrime me le stavano scendendo. Se giocassi così tutte le volte e Allegri riuscisse a mettere in campo una squadra del genere, allora penso che ci siano pochi discorsi da fare. Io penso proprio di sì, quello è l'approccio giusto alle partite, il modo in cui deve giocare una grande squadra, non come ha fatto alcune partite che voleva proprio presa e battuta al muro tutti quanti, volevano sbattuti. Per carità, ma ieri è stato veramente un grande trionfo, ma non solamente il fatto che è riuscita a sovvertire il risultato della prima partita, eccetera, ma soprattutto perché ha fatto vedere la capacità e la forza soprattutto della squadra. Sono andati proprio con la mentalità giusta, hanno affrontato con la partita con la mentalità giusta, cosa che dovrebbero sempre fare una squadra di quel rango lì. Questa non è una squadretta che può giocare e non giocare, ma quella è una squadra che deve sempre giocare a quei livelli, per tanti vari motivi. Sì, ma elogiata tutta la squadra, non solo Ronaldo che ha fatto un partitone come lui deve fare, come è stato preso per fare, capito? E tutta la squadra ha giocato bene, bravissimo Spinazzola, avevi ragione, anche De Sciglio era vascia. Guarda, secondo me Spinazzola e Cancelo dovrebbero giocare sempre. Spinazzola è un grandissimo giocatore e se lo facesse giocare sempre, e allora diventerebbe, soprattutto con la qualità che ha la Juve, lui diventerebbe ancora più forte. Fortissimo, allora forte, fortissimo, perché io ho sempre detto, quando giocavano insieme con Caldara, io ho sempre pensato, ma Spinazzola è meno considerato, ma io dico che Spinazzola è importante più di Caldara, e mi sa che non avevo torto, perché sono convintissimo che se devo continuare a metterlo a giocare altro che Alessandro, se ne vuole due di Alessandro. Ma lui parte dal principio, e lo sai, no? Lui parte dal principio che Alessandro è titolare e Spinazzola è stato preso per fare panchina, capito? Lui parte sempre da quel principio, che poi dica anche che devono giocare tutti, su questo non ci piove. Però io, per come ho visto Spinazzola giocare ieri, e anche contro l'Udinese, per me è da titolare. Certo, se lo credo. Considera che è ancora, sì, vabbè, ormai si sta allenando con la Juventus da qualche mese, ma considera soprattutto il fatto che era 6 mesi infortunato, che questo ragazzo non è solamente forte tecnicamente, ma è forte soprattutto mentalmente, perché un giocatore che è stato operato al ginocchio così, che ha fatto 6 mesi di infortunio, a ripresentarsi così, con quella potenza e con quel coraggio, guarda che non è da tutti, non è da tutti, perché di solito quando uno si infortuna così ci passa almeno un campionato intero per potersi riprendere alla grande, ammesso che uno sia grande, per dire, no? Invece lui subito pronto, già dalla prima partita che l'ha messo a giocare in campionato, ha dimostrato che è veramente un grandissimo giocatore, e ieri l'ha super dimostrato. E mi è piaciuto anche molto Ernbrecha, anche quello, nonostante che fino a questo momento a me non mi era mai piaciuto per come si era approcciato con la squadra, ma ieri ha fatto una grande partita, ma veramente grande, forse perché l'ha fatto fare il terzo terzino, gli ha fatto fare, sarà per quello, forse gli ha trovato la posizione giusta, non lo so. So solo che ieri ha fatto veramente una grandissima partita, a parte il Marziano, perché il Marziano, vabbè, è insuperabile. Sì, l'ho vista tutta la squadra ben compatta e pronta. Il mio coso era, speriamo che non facciano gol, però non gli hanno dato nessuna possibilità, capito? Non cosa ha fatto Morata, un tiro di testa. Poi il problema sono sempre i calci piazzati, perché l'Atletico Madrid ha segnato proprio sui calci piazzati. E basta, adesso è fuori il Real Madrid, l'Atletico Madrid, va a decidere il Barcellona. E poi oggi c'è il Bayern Monaco contro Liverpool alle 8:30 su Rai 1. E quella è una bella partita. Sì, anche quella è veramente da vedere. Cosa volevo dire? Tu pensa che Ronaldo è il giustiziere dell'Atletico Madrid, perché con tutte le volte che si è incontrato contro l'Atletico Madrid gli ha segnato roba di 25 gol, gli ha segnato una cosa spaventosa, ragazzi. Cosa vuoi che ti dica? È una cosa che è quasi impossibile. Se non l'avesse fatto Ronaldo, io avrei pensato, no, non è possibile che uno possa segnare tutti quei gol alla stessa squadra, non è possibile, guarda. Eppure lui l'ha fatto. Caspita, che razza di, come razza di trascinatore, poi, caspita. Si vedeva ieri che voleva per forza vincere, voleva andare avanti. Si è visto poi per tutto l'impegno, e se la squadra lo seguisse sempre, di queste partite così ne possiamo vedere tante. So che speriamo che la mentalità di quell'allenatore non ritorni indietro, perché ieri anche lui è stato bravissimo, ha affrontato la squadra, la partita in maniera maniera esemplare, soprattutto nei cambi, soprattutto in quello, che ha continuato ad attaccare quando stava vincendo, cosa che lui solitamente già lo sai, il primo golletto e poi subito indietro a fraseggiare così a centrocampo e andare mai in verticale. Invece ieri ha fatto proprio veramente una partita d'attacco dal primo sino al 95esimo minuto. Sì, ma poi ho visto quel cambio, cioè è entrato Dybala, è uscito Spinazzola, io pensavo usciva Mandzukic per Dybala o Bernardeschi per Dybala, invece nulla, niente da fare. Bernardeschi poi è stato eccezionale ieri, strepitoso veramente, ha fatto una partita strepitosa veramente. Cancelo poi non ne parliamo, tutti quanti secondo me meritano un voto altissimo. Comunque il minimo voto che potrei dare a chi lo posso dare, forse a Bonucci, 8 li posso dare, ma tutti gli altri, a Ronaldo devo dare 10, se è possibile dargli 11 o 12 gli darei anche di più, però tutti gli altri gli darei almeno 9 a tutti gli altri, perché hanno fatto veramente una grandissima partita. Ieri l'hanno sentita la partita e dunque è così che devono giocare i giocatori della Juve, perché stiamo parlando della Juve, non stiamo parlando del Chievo o che so io, del Sassuolo o di un'altra squadra così di bassa classifica. Infatti, no, poi è trascinato tantissimo, anche perché visto che quando ha segnato il primo gol, cioè invitava il pubblico a proprio farci sentire, aveva bisogno, e poi la squadra la chiamava, saliamo, cioè era una cosa, lui era sempre sotto porta, e meno male c'è il VAR, hai visto? Dice non serve il VAR, quel cerchio sul VAR, la parata, però la parata all'interno, mica la può vedere l'arbitro, è come, perché lui, hai visto che non ha fischiato niente, dal VAR le hanno detto guarda che è dentro la palla, e quindi lui ha segnato il gol. Sì, infatti è importante, vabbè, la gente che critica il VAR è una gente che ancora deve imparare a comportarsi, a capire, perché il VAR giustamente ti dice la verità, poi che sia a favore o contrario è giusto che sia così. Non, cioè, se c'è da dire che c'è la punizione, si deve dare la punizione, se non c'è non te la deve dare, non te deve stare lì. Poi è chiaro, oggi, ieri è stata proprio una giornata magnifica, capito? Non si è mai vista una partita così seguita, soprattutto, seguitissima da Sky, è stata seguitissima, non so quante milioni di persone hanno seguito quella partita lì. Quasi faceva anche il terzo gol di testa Ronaldo, quello dopo il primo gol che ha fatto, c'è stato un altro colpo di testa per un soffio, è andato fuori, per non parlare poi della punizione che ha tirato Bernardeschi, che era a filo dell'incrocio, peccato che era fuori, se no quello sarebbe stato un gol magnifico, sarebbe stato. Adesso però le punizioni in aria le deve tirare, quando c'è Pjanic, deve tirare Pjanic. Ronaldo sì, già le sa tirare, però io a Pjanic, quando c'è la palla al piede, mi sembra sempre quel pirlo che su tre punizioni due te le metteva dentro, capito? È andata bene, è andata benissimo alla grande, non c'è stato nessuna nulla, anche l'arbitro ha arbitrato benissimo, pochi cartellini gialli, una squadra molto corretta, si è sporcata un po' in quell'attimino di cose, però va bene, ora bisogna vedere nei quarti quale squadra è che ci tocca ai quarti. Guarda, a questo punto c'è poco da scegliere, sappiamo, sono rimaste le squadre più forti, sono rimaste. E quello che deve fare la Juve è andare e giocare alla stessa maniera, così, senza paura, senza stare lì a fare partite d'attacco, perché ieri arrivavano sul pallone sempre primi. Quello significa velocità, e quando uno gioca in velocità hai sempre la possibilità di vincere qualsiasi contratto e qualsiasi azione, perché è così. Il calcio di oggi è basato soprattutto sulla velocità e sull'agonismo. Oggi ci vuole cuore, ci vuole, e soprattutto sacrificio, bisogna saper soffrire, e loro lo devono fare, devono soffrire, perché sono pagati moltissimo questi giocatori, e dunque devono farlo. Ripeto, non sono giocatori che prendono 5, 6, 7, 800 mila euro all'anno, sono giocatori che prendono milioni, non sono giocatori di squadrette, sono giocatori di una grandissima squadra, una a livello mondiale, per cui devono battersi per dare soddisfazione soprattutto ai tifosi, che poi ieri i tifosi sono stati esemplari, hanno dato una mano straordinaria, perché sembra così, ma quando hai un incitamento a quelli belli, guarda, i giocatori vengono coinvolti e vengono stuzzicati a fare sempre di più, per cui hanno fatto bene. Anche Bonucci ieri mi è piaciuto, guarda, ultimamente non mi era piaciuto molto, ma Bonucci ieri ha annullato Griezmann e Morata, buono, non mi ha fatto toccare pallone. Tanto è vero, 5 calci d'angoli a 0, e soprattutto un tiro in porta ha fatto, col tiro di testa di Morata, poi tutti gli altri, li abbiamo schiacciati, speriamo di continuare sempre così. Sì, ma poi Griezmann l'hanno intervistato, ha detto la Juve completamente diversa dall'andata, completamente abbiamo sbagliato noi, non siamo riusciti ad essere aggressivi come l'andata, non abbiamo avuto modo soprattutto di essere aggressivi, perché la Juve non ce ne ha dato, praticamente non li ha fatti giocare, capito? E ha fatto anche complimenti Griezmann, Ronaldo lo stesso l'ha intervistato, sempre in spagnolo. Ha detto che lui è onorato di fare il suo lavoro con la Juventus, e soprattutto ha detto quello che hai detto tu, che non era giusto abbassare la guardia, e quindi doveva andare così. Una grande Juve, insomma, parlando, ha detto contentissimo di essere in questa squadra, in particolare gli ha detto il tuo aiuto è stato grande per questa giornata di Champions. Lui ha risposto in spagnolo che la Juventus l'ha acquistato per dare una mano, hanno detto non mi avrebbe non sarei arrivato, la Juve non mi avrebbe preso se non era sicura che io potessi dare una mano in Champions. Infatti la Juve l'ha preso per quello, l'ha preso per fare per dare una grande mano proprio in Champions. Se no per il campionato poteva stare anche com'era, senza Ronaldo, per dire, con un altro buon giocatore magari, però senza Ronaldo, che Ronaldo costa 31 milioni l'anno costa. Però diciamo che ieri ha dimostrato che i soldi che ha speso la Juve se li merita, visto considerato che lui gioca, è un grande trascinatore, e speriamo che gli altri giocatori non siano gelosi, è quello che io ho sempre paura, che gli altri giocatori della Juve, visto considerato che lui è talmente coccolato, ma non solamente dai tifosi, ma anche da tutta dalla società, lo sappiamo benissimo che è coccolatissimo, e che non siano gelosi, perché quello sarebbe un danno grandissimo. Se loro si impegnano e devono mettersi in testa che se Ronaldo è coccolato così è nel loro stesso bene, è giocando con impegno tutti quanti, ne traggono vantaggio grandissimo tutti, tutti valgono di più e tutti guadagnerebbero anche di più, perché allora sarebbero in grado di chiedere anche aumento e a niente glielo darebbe di sicuro, perché è così, funziona così. Quando la squadra vince poi ci sono sempre i premi superiori, gli ingaggi che vengono lievitati, tutte queste cose qua. Ma se loro giocano come hanno giocato ad esempio contro il Napoli, anche se hanno vinto, o se giocano come la prima partita con l'Atletico, non solo di dargli l'aumento, ma quando li dovrebbero abbassare, li dovrebbero i presidenti a questi giocatori così. E si conferma, è proprio così. No, ma non ce n'è di... è una bravissima persona, educazione, io non l'ho mai visto incazzarsi, è sempre sorridente in campo nonostante i colpi che prende, è una persona molto molto molto. La mia contentezza maggiore, a prescindere dalla Juventus, è che i giocatori del Real Madrid hanno puntato i piedi per l'arrivo di Mourinho. Hai visto cosa è successo? No, ho fatto sfogliatoio, se arriva Mourinho noi non giochiamo. Mourinho fuori, hanno ripreso Zidane. A Zidane stanno ripreso, cazzo. Vabbè, pazienza, dai. Io mi auguro che Agnelli possa continuare a motivarmi come li ha motivati per questa partita, guarda. Perché se lui continuasse così a motivare i giocatori e a lavorare in quel modo, allora sarei contento che rimanesse. Diversamente, se cambia di nuovo idea e deve lasciare la sua presunzione, perché è presuntuoso che vuole fare lui questo giro di scambio tutte le partite. Un giocatore si può cambiare, due giocatori, ma non ne puoi cambiare 6, 7, 8, ma quando mai? È chiaro che poi in questo momento la squadra non riesce ad essere omogenea l'uno nei confronti dell'altro. Per cui non avrà mai un grande gioco. Se invece lui lasciasse giocare sempre la solita squadra, naturalmente con l'eccezione di fare qualche cambio eccetera, così di tanto in tanto, lui deve stabilire la squadra titolare e non deve stare lì, non guardare in faccia seconda di Dybala. Se Bernardeschi gioca meglio di Dybala, a Dybala fanno sedere in panchina e lo metti con la concorrenza e così via, così anche per gli altri giocatori. Se c'è uno che gioca meglio, è quello che deve giocare, non deve stare lì a fare tutte queste cose stanco, così, ma cos'è di stanco? Ma quando mai un giocatore capita pagato, allenato a dovere, tutto coccolato, a tutto curato nel migliore dei modi, poi a un certo momento mi viene a dire che è stanco perché gioca ogni 3 giorni o ogni 4 giorni, ma cosa stiamo dicendo? Sono fesserie. Sì, è proprio così. No, ma lui si è accorto, l'ha anche dichiarato. Io, perché c'era Cappello, poi a fine partita ho guardato fino a mezzanotte rotti. Poi ero stanco, ero solo, mi sono colpiato. Però c'era Cappello, c'era Del Piero in studio. Cappello gli ha fatto i complimenti ad Allegri. Infatti ha detto grazie. Però dice, io ho scelto la squadra migliore, la squadra che ho visto giocare anche in campionato, molto motivata e molto, molto veloce, quindi ecco perché ho scelto quei giocatori, se no ce li avevo tutti a disposizione, tranne quelli squalificati e quelli infortunati, però dice ce li avevo tutti a disposizione, capito? Quindi è chiaro che la scelta è stata Spinazzola a Cancelo, perché con l'Udinese Spinazzola ha fatto un partitone. Bernardeschi la stessa cosa, ieri ha dato l'anima, se non lo atterrano il gol lo fa lui, se non lo atterrano il terzo gol lo fa lui, tranquillo, perché la Gennaria si gira ed era dentro, cioè l'hanno atterrato e quindi ha dato rigore dovuto, perché è dovuto, una volta che il VAR controlla e dice sì c'è rigore, l'ha agganciato col piede di rientro e l'ha buttato giù. Involontariamente, non l'ha voluto fare, però l'hai agganciato, quando il vorrei che tu l'agganci è chiaro che ti dà rigore. Quindi oggi la Juve, io spero che continui in Champions, perché a me interessa la Champions, il campionato non mi preoccupa più, non c'è nessuna preoccupazione per il campionato. 18 punti dalla seconda, dove vuoi andare? Mancano 9 partite, ma dove vuoi andare? Napoli, vince ma non convince, quindi non è che gli altri sono troppo lontani. Vorrei vedere se si accascia al Napoli, come è già successo con Sarri, rovina a 5 punti, stia attento, stia molto attento, perché potrebbe avere delle sorprese per il secondo posto, capito? Certo, sì, no, ancora non è tranquillo il Napoli per il secondo posto, assolutamente no. Comunque sono stati anche abbastanza gentili, che il Napoli ha fatto i complimenti alla Juve, ha fatto. Per cui hanno capito, avranno detto, caspita, questi se avessero giocato così contro di lui, ci avrebbero fatto una marea, dico, visto che se ne hanno fatto due, come hanno giocato, figurati se avessero giocato in quel modo, allora cosa sarebbe successo? Sì, questo è, guarda, le ha dato la motivazione giusta, gli ha dato questa volta a Agnelli. No, ma l'avevo sentito proprio dopo il Napoli, dopo la partita con Napoli, l'avevo sentito io a Cappello, che aveva detto che faceva schifo la Juve giocando così. Come mai? Strano, sì, ha vinto la cosa, tutto quello che vuoi, però dice io non ho mai visto una Juve così brutta. Aveva criticato Cappello, e non solo Cappello, ma tutti gli addetti ai lavori avevano criticato, soprattutto a Verri, e a Verri in questi ultimi 15 giorni è stato criticatissimo. Si vede che ha sentito odore di licenziamento e allora ha incominciato a svegliarsi anche lui. Beh, è normale. No, non c'è niente da fare. Ripeto, io penso che qualcosa ci può... Beh, tu hai parlato delle squadre più forti. Quali sono le squadre più forti che possono battere la Juve ai quarti? Chi sono? Cioè, io temevo più l'Atletico, il Real Madrid, il Barcellona, che è sempre il numero uno, il Manchester City, il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain è fuori. Fuori il Real Madrid, fuori l'Atletico. Cioè, non è che... C'è anche il Liverpool, certo? Sono tutte squadre che giocano bene, però sono tutte squadre che la Juve può affrontare tranquillamente senza nessuna difficoltà, perché è nelle qualità della Juve poterlo fare. Per cui deve andare a giocare sapendo che ogni partita adesso dai quarti in poi deve essere come la finale, loro si devono battere tutto allo spasimo, senza stare lì a pensare ma regoliamo i tempi. Sì, bisogna giocare dal primo secondo, appena fischia l'arbitro, sino a quando finisce la partita, il 95esimo, bisogna correre come dannati e giocare con massima precisione e soprattutto come hanno fatto ieri, con più verticalizzazione, perché è inutile andare a giocare questi passaggetti davanti al suo portiere, palla indietro, ma quando mai? Ma quando si è mai visto? Così può giocare il Malaspina, così può giocare la Torres, ma non la Juve, ma scherzando siamo. Lo Malaspina. No. Guarda, ripeto, sì, lì, infatti io per quella stasera voglio vedere. C'è Bayern Monaco, Liverpool. Se il Bayern Monaco dovesse battere il Liverpool, allora se esce anche il Liverpool, Bayern Monaco obbliga giusto a volte la Juventus, non una squadra che può battere la Juve come in questo momento, magari negli anni passati può darsi di sì. Ma anche in questo periodo non è una grande squadra da temere il Bayern, perché è una squadra abbastanza in declino, dai, rispetto agli anni d'oro. Però sono sempre squadre di una fama internazionale, sono squadre sempre molto ma molto pericolose, perché magari le capita la giornata buona e possono fare delle cose straordinarie. Certo, ma la Juve non deve guardare in faccia a nessuno, non deve pensare ma quando è più debole e quando è più forte, no, quelli sono tutti più forti di te, tu devi attaccare per potervi mettere in condizione di essere più deboli di te, ecco qual è la situazione, così devono giocare, sempre, sempre, sempre, sempre, se vuoi vincere, se no non si può vincere facendo i piccoli fraseggi così a centrocampo, palla laterale da Bonucci a Chiellini, da Chiellini a Cancelo, da Cancelo a Pinazzola all'altra parte, la palla deve andare dal centrocampo, deve andare in avanti, in verticale possibilmente, perché tu hai un uomo in attacco micidiale, e quello se ne dai palloni, abbiamo dato 5 palloni, ne ha segnato 3, ma cosa vuoi di più? È così che bisogna giocare. Così bisogna giocare, bisogna vedere, ti ripeto, se questa cosa può continuare. Il problema è quello, caro mio, il problema è quello, sapere se può continuare a questi livelli. Io pensavo che crollassero tutti, invece hanno dato l'anima sino al 95esimo più 5 di recupero, cioè allucinato, cioè sia al 95esimo, sì, 90esimo, 95 minuti. Adesso vediamo. Chi approda ai quarti contro la Juventus? Secondo te qual è quella che potrebbe giocare con la Juve ai quarti? Io guarda, se devo essere sincero, spero nel Barcellona, guarda, spero nel Barcellona, ammesso che il Barcellona riesca a passare, perché deve giocare il Barcellona con il Lione lì, e hanno fatto 0-0 una partita, se vogliamo a caso che il Lione fa un gol adesso in Spagna, capita, poi devi, quelli magari si mettono davanti alla porta e magari non riescono a rimontare, non si sa mai, vabbè, ma ammesso che il Barcellona batta il Lione, no? Allora a questo punto io preferirei affrontare subito il Barcellona, così eliminiamo quella che è la candidata numero uno alla vittoria finale, perché lo sappiamo, sempre è stato così, no? Ma io penso che il momento, l'era delle squadre spagnole sia un pochino diminuito, guarda, almeno al livello di vittoria finale. Io ne sono più che convinto. E Manchester City è fortissimo, indubbiamente forte, però diciamo che, cosa, come si chiama, quando l'allenatore ne ha fatto tante di finali, mi pare ne ha fatto, non dico 10, ma poco ci vorranno a 10. E ne ha vinto solo 2, non si crede che ne abbia vinto così tante, no? Poi, per cui è battibile anche lui non è meglio degli altri. Io, guarda, sono più che convinto, se la Juve va con la mentalità a giocare come ha fatto ieri, con la stessa mentalità, può battere chiunque. Sì. Beh certo, vedi, così ti togli stasera la scarpa direttamente, sai che devi giocare contro il Barcellona e ti adegui a quella partita, giochi come devi giocare e vinca la migliore, perché insomma, è vero che il Barcellona ci ha messi altri giocatori, però noi non siamo di meno, attenzione, perché in attacco abbiamo un Ronaldo come loro hanno un Messi, e poi ci sono gli altri punti che non sono a livello di Messi e a livello di Ronaldo sicuramente, perciò io penso che il Barcellona non è assolutamente temibile nel modo più assoluto. Ma assolutamente no, tu basta pensare solo una cosa, Messi in campionato, in centro ha fatto 10 o meno di Ronaldo, per cui perché Ronaldo ha fatto 125 gol, una cosa così, in Champions ha fatto da quando ha incominciato a giocare, a fare il Champions, solo in Champions, sto parlando di Champions e basta, mentre Messi ne ha fatto 10 meno, 10-12 meno, una cosa del genere, per cui non abbiamo niente da invidiarle. È vero che Messi è un grande campione, certo, però io dico che Ronaldo come qualità di giocatore forse Messi è più tecnico, però Ronaldo è più conclude meglio, è più risolutivo secondo me, perché ha fatto gol di Messi. L'ho dimostrato sino adesso che in tutti questi anni fa più gol di Messi. Vediamo poi c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Buonasera. Ho sentito qualcosa. Ehi, così è, caro Giulio. Vabbè, aspettiamo. Vediamo cosa succede. Avanti già. Ma non hai guardato di casa che sono tutti quattro corrotti, questi cacciatori. Ehi, Parigi mi piglia i soldi, quello che prendono, io li farei praticamente, come si dice, giocare non il fine settimana, ma li farei giocare da lunedì alla domenica. Vabbè che lavorano, perché chiaramente anche loro si allenano, hanno tutta una preparazione tecnica, da come noi andiamo a lavorare loro fanno altre cose. Vabbè, avanti Giulio. E io qui, ciao Gianni, ma cosa stai dicendo? Che sono tre corrotti, ma no, perché cosa ti credi che sia per te? Quelli dell'Andrangheta, so che sono. Tutti gli uguaccini? Sì, no, non sono così, non sono corrotti per niente. Vecchioni. Oh già, sono giocatori che sono atleti e giocano e devo dire che si sacrificano anche, perché fanno certi allenamenti non indifferenti. Tu mi dai, ma sono pagati bene? Certo, quello sì, è vero. Anzi, sono pagati troppo che per quello. Però non è vero, non ce n'è corruzione tra i giocatori, assolutamente, niente da fare. Qualche presidente può corrompere qualche arbitro, può corrompere qualche altra squadra intera, però la squadra avversaria, ma i propri giocatori non li corrompe di sicuro, guarda, assolutamente. E vabbè, avanti già, vabbè, a te non ti piace il calcio, non ne parliamo più, avanti, alla prossima, ero qua per il calcio, vai Gianni. No, guardate, le tue io non le ho fatto più, avevo fatto la parte, non ho nessun problema, se ne parlava. Naturalmente sto l'ascolto perché non me ne intendo quando sono a entrare nel discorso, non me ne intendo perché non lo seguo, mio padre è guai, ci ascoltava, ci guardava le partite a televisione e nello stesso tempo aveva le cuffie e la cuffia si ascoltava con l'auricolare la radio. Beh, certo, ma a volte lo faccio anch'io quello, sempre quello, non è detto, anzi, qualche volta ne ascolto tre io di seguito, ne ascolto, via. Vabbè dai, vabbè, se uno non è appassionato, o perlomeno se non è interessato, pazienza, non è detto che tutti debbano essere interessati a quel tipo di sport, magari uno può essere interessato, che so io, al ciclismo, al pugilato, oppure alla tecnica in cera, ci sono tanti sport e ognuno ha le sue preferenze, ovvero. Vabbè, dai. Allora qua. Ehi, già, ma parlavamo, no, stiamo parlando, non ci bisogna parlare di calcio, parlavamo dell'impresa che ha fatto la Juventus ieri contro l'Atletico Madrid, perché a Madrid ha preso due gol, ha perso 2-0, ieri ha vinto 3-0 in casa, quindi ha eliminato dalla Champions League l'Atletico Madrid. Parlavamo di questo, quindi stavamo un po' commentando questa cosa, niente di che. Mi pare aver sentito anche a Marco. Vado a Pignara, tu sì. Morte alla Juve. Passa via, intanto quando scendi le scale cade a testa a terra. Come l'hai detto, presa, pensavo si fa l'impresa a canale. No, scherzo, naturalmente. Poi io ricordo di nonno che era juventino, c'era il pupazzetto bianco-nero della Juve. Buonasera a tutti, è inutile dirvi che mi sto per impiattare, quindi ce l'ascolto, da riprendete. Ciao, buona. Cioè praticamente io entro per dirvi che sto mangiando e poi ci metto 2 ore e poi chiudono tutti. Dai, già vi ascolto con piacere. Guarda, ci sono tante persone che gufavano ieri dopo aver visto la partita che ha fatto quella squadra lì, oggi gli hanno fatto i complimenti. Persone che prima gufavano, parlo di gente tifosi delle altre squadre e le altre squadre stesse, il Napoli che è stata sempre contro la Juve, Spalletti che è lo stesso qua, anche lui ha fatto i complimenti alla Juve, per dire no, allenatore dell'Inter. No, insomma, quando ci vuole, non c'è niente da fare, quando è da sportivi fare complimenti a chi effettivamente ha fatto un'impresa, perché ieri era proprio un'impresa, ribaltare una partita dal 2-0 al 3-2, guarda, non è da tutti i giorni, soprattutto considerando la difesa e la squadra che ha affrontato, perché quella è una squadra, una delle più forti squadre del torneo della Champions League, per cui non era facile passare in quella difesa. Eppure te li hai inchiodati lì, boh, da lì tu da centrocampo lo esci, rimani sempre fermo lì perché poi ci pensiamo noi a farti gol. E così è stato. Vai Gianni. A questi giocatori, se fanno bene li portano alle stelle, se sbagliano qualche cosa li demoliscono, poveracci. Ho sentito tutti che stavano acclamando la Juve, anche le mie colleghe qua, là, Juve qui, quella. Se non sopporto da ieri non voglio più questa mia collega. Perché ci sono tante donne che sono tifosissime anche del calcio, perché no, certo, anzi ti dirò di più, ci sono tante donne che vanno anche allo stadio, ma tantissime veramente, nonostante che un biglietto, sai cosa costa Gianni? Figurati se il tifoso di quella squadra non debba essere contento se gioca bene, oppure arrabbiato se gioca male, quando pensi che un biglietto costa 110 euro, tanto per dartene un'idea, no? Se permetti, se ti do 110 euro mi devi far vedere anche lo spettacolo e soddisfarmi, no? Non farmi vedere una partita di gente che non si impegna, no, non va bene così. Ma qua io domani mangio, dai, non mangiare peluci. Io un motociclista, mi. Ah, motociclista di Basca, dice. Ma 110 euro loggia, Giulio, per andare alla Juve, mamma che entrate ti fanno. Cioè, ti ho detto che ho fatto i biglietti io per il 2 aprile, per Cagliari Juventus, 110 euro, a Cagliari però, 110 euro indistinti. No, no, anche a Torino con la Juve, naturalmente non nel settore, il settore distinti, no? Beh, capita, allora è sviluppo. Infatti i tifosi si erano anche lamentati e dice hai fatto dare il daspo ai tifosi delinquenti, però ho aumentato anche i biglietti. Ma ieri invece si sono rincuorati, allora alla grande tutti quanti hanno fatto tifo proprio come si doveva fare, e hanno dato una mano grandissima, bisogna riconoscere anche quello, è stato anche un grande aiuto da parte dei tifosi. Vabbè, avanti con molto ciclista. Non importante oltre che a me, poi là se vuoi pure Brassica. Ciao Eugenio. Io vado in Genova, a Trevici, sarà una giornata diversa, il 2 aprile, c'è Cagliari Juventus, abbiamo già fatto i biglietti, 110 euro, più vabbè, una giornata sicuramente di grandi spese, però non me ne ha fatti nulla. Io avevo ucciso già da tanto tempo, Giulio lo sa, però purtroppo capitava sempre che la domenica o il sabato dovevo lavorare, o il sabato e domenica dovevo lavorare. Adesso lo posso fare, lo faccio, non me ne ha fatti nulla. Sto cercando di fare tutto quello che ho lasciato indietro. Non mi interessa proprio niente, perché si vive una volta solo e alla fine, a conti fatti, ciò che non ti hai goduto rimane agli altri. E chi cavolta giù giamba d'idea. Avanti, oh Marco, vai poi per Eugenio, vai. Eia. Eia, ah, quindi deve vedere la partita a Cagliari. Mica sono brutti i miei tifosi cagliaritani. Guarda, ti attrezzo io, ti do la mazza ferrata, il tirapugni, spalare il peperoncino per seminare il panico, i petardoni, tutto ti do, capito? Pure lo scudo antisommossa della polizia ti do. Sono brutti lì, soprattutto quelli della Santeria, miei pirri, mamma mia, mamma di turchi. Guarda, io ti dico solo che no, niente da temere, perché vado alla partita con i cagliaritani, quindi immaginati tu, mi aspettano all'ingresso di Cagliari, ci aspettano all'ingresso di Cagliari, c'ho più di 40 colleghi, io tifosi cagliaritani a Cagliari, che mi portano sul palmo la mano, e proprio, e quando li ho avvisati che vado, hanno già preparato la festa, quindi, ma non per farmi a pezzi, perché sarà una bellissima giornata sicuramente, capito? Infatti noi andiamo dalla mattina, non è che andiamo a giocare alle 8:30 la sera, quindi andiamo dalla mattina, pranziamo a Cagliari con tutti questi miei ex colleghi e non rientriamo neanche perché dormo a Cagliari, perciò dormo a Cagliari a casa di un mio carissimo collega che era al mio fianco, io al suo per 20 anni, quindi sono di casa, non ho niente da temere, niente da nulla, capito? Le macchine le lasciamo a casa di questo mio ex collega, andiamo con la macchina sua e non c'è nessun problema, non ho niente da temere, quindi vado e passo una giornata sicuramente molto bella, a prescindere che dal risultato, da quello che succederà, non me ne fotte nulla, perché il campionato proprio non mi interessa. Può anche perdere la Juve, ma non perde, comunque. Va bene così. Eugenio, ma lo sei mai bindacciato tu? Stamani mi si via la moto come te leva, e infatti c'era andato a pigliare la moto in garage, cacca, una passata d'acqua, passassare Eugenio, ma di quelle belle, mi. Quando ma anche quelle estive, sai, sono quelle giornate estive, no? Che io andavo a Sorso per la macchina di servizio, l'ultimo anno che ho lavorato andavo sempre in moto, sempre, non fregava niente. Anche mi alzavo, sì, giornata brutta, c'è anche freschetto, però sai, siamo l'estate, io già mi nafutti, ma io già mi nafutti. Ah, metà mattinata, nuvole, proprio quando stavo uscendo all'1:30 che rientravo per andare a Sorso a mettere la macchina, a prendere la moto, da Sorso fino a San Camillo in barriera di leva, che ha giubilato, ma in barriera di leva, ma è che cortemi, senza gli un botto di tranuda, c'avevo un kiwi sempre sotto la sella, per non si sa mai, ah, mi curava leva, vista di mettere i mudandi, però avevamo l'estate, già mi era fitti. Cosa mi interessa? Però no, adesso l'inverno no, l'inverno è aspetta. La mattina ha piovuto per un'oretta, ha piovuto molto a Sassari, perlomeno nella zona alta ha piovuto, è anche bella, bella. Adesso è tutto asciutto, di canti da secco asciutto tutto. Vai doppio room. Ho sentito un profeta oggi, boh, ieri sì mi pare, oggi non ho sentito, vai giù! ok. Ma oggi, ma è vero che una volta due gli appare il rotto imbottiti a serratura, vero è? No, tu fai le ruote butti da serratura, per l'inizio penale. Dici, chiamare, la volta che ti hai comparato, guarda, le ruote, piene di serratura, anziché a te a piena l'aria. Sono piene di serratura, vero? Vabbè, cosa vuol dire dicevo? Tu te la vuoi comprare a chi? Prima o poco mi ha firmato una cassa di cambiare, a buono mai dove si uno paga. Vero è Claudio? Minchia, sono per la moto o ce l'hai o non te ne danno, eh? No. Per qualsiasi moto, a prescindere che è quella di Eugenio Costa, perché il marchio Erli non c'entra affatto. No, qualsiasi moto, oramai anche le finanziarie quando vai a comprare qualsiasi cosa, se non hai garanzia non ti ridati, sì. O paghi in là, o paghi da una parte e paghi dall'altra, se no te la portano via. Va bene, vediamo Gianni se riprende, se no riprendi tu Marco. Marco riprendi. Sono qui da Magliena a 4 palazzi, figurati se riprende. No, ma è così, no, adesso a parte gli scherzi, Eugenio. Cos'è di cilindrata? 1200 la moto tua di cilindrata, Eugenio. Ma quale? La vecchia sono la nostra, a 1760, ma io non lavoro, questa è una moto da 30.000 euro, questo è il minimo. Dimmi una cosa, quante cavalli ha quella lì? C'entra niente mi Giulio, quelle sono molto a passeggio, non sono molto che andi a 330 all'ora, no, che sono 1800, e se tu consideri io ho un 600 di cilindrata e c'ha 130 cavalli, cioè 100, no, qua sto dicendo, 125 cavalli, quindi non c'entra niente, ma perché? Perché la mia è una moto a strada da gurì, mentre quelle sono molto da rilassarti, cioè i gomenti che si è bruciato in macchina e stai camminando, capito? Non sono molto veloci, sono molto potenti come forza, ma non sono molto veloci, o sbaglio oggi? A mangiare il pranzo, fatti lo gonzo. Vabbè, ma su questo non ci piove, anzi ci ha piovuto già, quindi che tu mangi alle 8 di sera il pranzo Anzi, alle 8 di sera per noi non è un problema. Noi alle 8 di sera ceniamo, vero Giù? Eh beh certo, ma io pensavo che aveva già mangiato, che magari aveva anche digerito. Invece sono già le 7, subito, velo 5, e ancora non ha iniziato. A posto Semmo. Ciao Fittina. Va bene, comunque, anche se è una moto, diciamo così, chiamiamola da fastidio, dai, è sempre una moto pesante. E cosa pesa una moto del genere, o oggi? Un paio di quintali buoni. Da 500 kg, una parola. Ma quando lo metti sul cavalletto, pesante da, o è fatta in una maniera che è facilissimo mettere anche sul cavalletto? Diciamo che non è altro il cavalletto laterale. Quale? Lerli. È molto, molto maneggevole, capito? Rilancia a me Giulio. Posso? Una. Sì, non sapevo che avesse solo il cavalletto laterale, ho capito, non ho capito. Dunque, insomma, no perché una volta il cavalletto ce l'aveva anche al centro, ce l'avevano queste moto, però forse l'hanno eliminata perché quando curvi strisciava per terra, mentre invece quando è laterale magari quando si piena in alto si piena e non può toccare per terra, sarà per quello, non lo so, non me ne intendo la verità. Avanti Marco. Eia, volevo chiedere a Eugenio se conosceva le Boss Hoss, con l'H, Hoss, Boss Hoss, praticamente sono delle moto, potremmo dire artigianali, anche se poi sono di serie, no? In stile Harley, no, però hanno sotto motore Chevrolet V8 5007, lo stesso della, proprio della macchina Chevrolet, sai, V8 5007, addirittura c'è 6008 mi pare, o 6009 cilindrata, sono immense, immense. È proprio una follia, e quella è la follia pura, cioè passi l'Harley, no? Che nasce così. Oh, oggi, quelle che pesano, quelle gira gira ti pesano quanto una macchina, mi. Lì è critica la cosa, però mamma mia la porra, c'è una roba di 300 e più cavalli su una ruota sola e poi certi se le potenziano pure, cioè tipo 400-500 cavalli su una ruota, fatti da malati, però bella, hai visto il serbatoio quanto è largo, è immenso, immenso, la sella non è una sella ma è una poltrona. E poi il suono del cioccolato motore deve essere, mamma mia, il motore di Chevrolet 5007, ciu. Alla fine è persino, penso che sia persino più pesante della Goldwing, eccetera. Volevo farti un quesito, ma sto sbagliando io o il peso limite dei motocicli era 350 kg? Adesso devo controllare la patente, mi ricordo questo dato, ma forse sto sbagliando. Ma è nel caso che cedesse si guidano con la B anche le Harley? O sto sbagliando io? Se tu hai quella la patente B della motorizzazione civile, devi avere navigato il patentino A specifico per la moto. Se invece hai la patente come c'ho io, quella in carta, non quella tipo carta d'identità, della prefettura di Sassari, allora patente A io non ne ho, non ne ho mai avuto, capito? Ho direttamente quella e con quella posso guidare anche la moto. Qualsiasi moto, capito? Senza la patente A, ce l'ho direttamente inclusa A e B. Sì, no, ma io non ho mai avuto problemi. E arriva che mi viene da lontano, sempre no, qua. Adesso, vabbè, con quella piccola mi hanno fermato un paio di volte. Con questa, due volte l'ho presa. La prima volta mi hanno fermato subito. Mi hanno cancellato i carabinieri. Quindi, non ho problemi. No, io non ne ho questi rischi. L'ho rifatta nuova, mi hanno dato quella a tempo bacco, ma però non ne ho questi rischi, è libera. C'è proprio scritto A e B, capito? Va bene, avanti Giulio. Ok, ma io la patente della moto ce l'ho già, roba di 57 anni, ce l'ho, perché avevo 21 anni quando ho preso la patente della moto, mentre invece quella della macchina ce l'ho esattamente 53 anni, perché ce l'ho da febbraio 1966 ed è in un'unica patente, c'è scritto A e B, e dunque posso portare io qualsiasi moto e anche motocarro posso portare, per cui non ci sono problemi. La patente è all'antica, insomma, poche parole, che è senza limitazioni o EOG. Il patentino, quello è per i ragazzi appunto che hanno il cinquantino, sì, ma io non sono il patentino, ma i ragazzi di oggi, se non avessero avuto almeno 25 anni non me l'abbiamo dato, nemmeno un cinquantino in mano, ma ci sono tutti i capicemitati, per carità. Oh, come è cambiato il mondo dei giovani. Va bene, lasciamo restare queste cose. Avanti Marco. Sì, allora, ho la patente vecchia io, no? Quella cartacea, no, ho sbagliato il valore, no, qua dice, allora, motocicli e motoveicoli con massa a vuoto fino a 400 kg e massa complessiva non eccedente 1.300, no, allora ho sbagliato io, non c'entra 350, questo è fino a 1.300 kg. Ok, sì, io avevo preso la B nel 90, la B, e poi nel 92 ho preso la A, però anziché aggiungerlo sulla patente hanno sostituito la patente, me l'hanno data nuova, infatti qua parte tutta la 92, in realtà io ho la B almeno ce l'avevo dal 90, e c'ho ancora la foto vecchia del 92 quando ero piccino. Adesso non sembro più io, sembro il ritratto di Dorian Gray, sembro io e non la foto, anzi la foto diventa più giovane, io divento sempre più vecchio. quindi anche la tua è senza limiti. Sì. No, non c'è categoria 1 a 2, ah, punto. Invece C, D, E, nulla, asterischi. E poi mi ricordo che avevo il foglio rosa, no? Per la A, no? Perché io a moto prima non avevo preso, avevo un cinquantino, no? Col foglio rosa si poteva guidare solo in città, solo io non lo sapevo. Io andavo al mare, a Platamona, no? E poi me l'hanno detto che dovevo, cioè secondo loro è ciclo urbano, a parte vabbè che è tutto abitato, da qui a Platamona non c'è, insomma poi alla fine come ho saputo potevo guidare solo in città, ho continuato a fare lo stesso, me ne andavo al Gheiro, me ne andavo a Platamona col foglio rosa. Io avevo preso, ti trovavano, non ti faceva manco già. No, io l'ho presa nel 77, quindi il 77 e 80 l'ho presa mia moglie, quindi va bene. E niente, no, anche invece mia figlia c'ha la patentino A per la moto e la patente B per la macchina, ce l'ha separata. Guidare sino al 250, non di più. Va bene, avanti oggi. E in Friuli andiamo mai a Giulio. Cosa avremo tutta la lì? E capito Giulio cosa avremo tutta la lì? E cosa avremo? Basta che dai! Annoiamo e basta. Oggi, ma dimmi una cosa, ma non aveva mai chiesto al comandante di farti fare di guidare la nave? Non potevi chiedere, fammi fare un giro della nave, magari qui nel porto stesso, se stanno a puntare altri gruppo. A vedere cosa ti risponde. Oh, domanda. Sapete niente per il rinnovo del permesso di pesca in mare? È gratuito. Sono ubicato io, no? Eugenio no, non lo sa magari. A doppio rondo devo chiedere, no? No, perché io l'avevo fatta, questo tessere gratuito, poi c'era il rinnovo automatico perché non c'era il nuovo decreto, l'hanno rinnovato all'infinito, devo vedere com'è la situazione. No, perché io per disperazione, no? Volevo quasi riprendere in mano le canne, pulire, cambiare mulinello se necessario, volevo quasi tentare di riprendere a pescare per fare qualcosa a me, giusto per non suicidarmi. Ah, l'unico diciamo permesso che ho io per pescare, lo sai qual è o Marco? Vado per dire, non so, con i soldi al mercato e pesco. Poi se voglio pescare lì da mare vado di nuovo con i soldi e pesco, sempre. E diciamo che il permesso che ho io è molto, ma molto efficace. Non c'è bisogno di andare troppo presto a pescare, no, ma a qualsiasi ora, da appena che apro il mercato, fino all'ora della chiusura, con quel sistema puoi pescare tranquillamente, guarda. Dopo te lo dico. Attento, quando ingoglimi, non affogare. Dopo, avanti, Eugenio. Sì, proprio come passatempo, ma poi se non pesco è meglio, a me basta stare libero del mare, magari compagnia di qualcuno, a parte che mi scoccio già in puzzo lentirmi le mani col pesce, a me basta andare, poi se non pesco meglio ancora, l'importante è uscire di casa, a me in poche parole Giulio. Vai Claudio, ok, dai sto mangiando. Lavorando io. Eugenio, fisicamente sono messo abbastanza male pure. Altro che lavoro. Se me lo danno d'ufficio, grazie, una scrivania, rispondere al telefono, usare un computer magari. È troppo bello sarebbe. Io il manovale non lo posso nemmeno fare, schiena compromessa e muscoli assenti, sembra una cosa neuromuscolare a me, vabbè, l'ho già detto già una volta, e messo male sono fisicamente oggi. Fra un po' divento anche orecchione, eh? Claudio, ogni tanto mi piglia in giro Ivan, beh froccio. Purtroppo quando non hai soldi non si attacca nel pesce, o Giulia a proposito lì, no? Che metti i soldi, sventoli si abbocca il pesce e manco le donne abboccano senza i soldi, capito? Quello sì, è vero, hai ragione, lo so. Quello, appunto, quello è il permesso più importante, io praticamente quello lì è il massimo del permesso che ho per la pesca io. Tutti gli altri permessi non me li sono presi, non mi interessano, ma quello mi interessa sempre, perché intanto magari vado a comprare i polpi, un giorno sì e un giorno no, vado a comprare le orate e così via, no? Le anguille, insomma sono tutti permessi, e tu vedi, io vado di solito da Antonio, che tra l'altro è un ex CB anche, Gianni lo conosce bene anche quel tipo lì, e forse per me il miglior pesce vendolo che c'è, il miglior banco che c'è al mercato, e vado sempre da lui, vado. Infatti l'altro giorno quando sono arrivato gli ho detto 73 più 51 e si è messo a ridere, perché lui ha fatto il CB, anche la moglie faceva la CB, ma adesso era tanto tempo, tanti anni che non ha più baracchino, almeno suppongo che non ce l'abbia più. Va bene, là, mi prendi qua. Vabbè, distratto, adesso mi sono distratto io. Cosa ti volevo dire, Giulio? Sì, che certe volte io avevo mollato la pesca perché umidità, di notte c'è un'umidità bestia, perché in teoria in estate la spiaggia non si può pescare, non in teoria, per regolamento no, puoi infastidire i bagnanti, non si deve pescare di giorno in estate. Però di notte puoi andare, capito? In inverno, non lo so, la verità, in inverno forse anche di giorno, ma mi devo riguardare tutto il regolamento, ogni tanto cambiano, ogni tanto fanno, emanano decreti a livello locale, no? Capitaneria di Polo Torres, di Alghero, eccetera. Ho capito, ma... No, guarda, per la pesca, oggi stavo guardando il ciclismo, stavo guardando stasera, che c'è la Tirreno Adriatica iniziata oggi di ciclismo, e ho visto che c'era in una piattaforma proprio immersa in acqua, proprio nel mare, adesso non mi ricordo com'è quella località, una località balneare, eccetera, molto importante in Italia, adesso in questo momento non mi ricordo come si chiama, e c'erano questi pescatori, sai come stava pescando questo o Marco? Tu immaginati una canna da pesca, no? Attaccata a questa canna da pesca c'era il filo che poi scendeva e c'era una rete, però questa rete era con la forma di un ombrello, praticamente un ombrello anziché metterlo come si mette, era capovolto, no? Sicché era concavo dalla parte alta, no? E allora immergeva nell'acqua, immergeva e poi quando c'era il pesce lo tirava su. Un sistema di pesca abbastanza semplice e facile, non c'era bisogno nemmeno dell'esca, niente, o Marco, non so come mai loro pescassero in quel modo. Ah, la cosa vedo, non prendi freddo, vai lì al mercato, butti la mensa, una borsa a foglia a vecchio, sono andato l'altro giorno, la paura, ho speso più di 80 euro in pesce, avevamo notti, campagna, più di 80 euro di pesce di pesce. La massa che ne rifare, è caro come il pesce quest'anno. Buh. Se non cacci i sordi, ok, sembra più nulla, nulla, nulla, è caro il pesce, tu la moto si sente a comprare, io l'ho comprato sabato, ma è caro, eh, anche al mercato sta diventando caro. Per anguille a 19 il chilo le anguille, i polpi erano a 11, le triglie, quante erano? Ah, le triglie erano 15, mi sembra, se ricordo bene. Sì, sì, e vabbè, le anguille. Io ho preso le anguille a Desanubi. Ecco le becche in Chivi, Eugì, tu conosci i pescatori lì, a te magari te lo portano bello fresco il pesce, no? Aspetta, a me piace moltissimo il pesce, io addirittura lo preferisco alla carne anche. Premesso che di carne naturalmente se ne consuma di più qua a casa, ma anche per una questione di spesa, perché il pesce lo compri fresco, lo devi cucinare subito, non è che lo puoi congelare, se non tanto male comprarlo congelato, per dirlo. Mentre invece la carne è diversa, vai, faccio la spesa, via al supermercato e poi già confezionato e tutto, lo metti in freezer e ce l'hai per tutta la settimana. Mentre il pesce no, devi andare tutti i giorni al mercato, cosa che non potrò fare. Cioè, se voglio lo posso fare anche, però non lo faccio perché non va nemmeno bene. Il pesce se lo compri lo devi cucinare subito, se no è inutile che lo mangi congelato. È tanto male allora andare a comprare un congelato, no? Non ti sembra? Guarda, un po' ho preso quelli peluti, che è stato una 5, ma non so veramente l'intestata su acqua, che è al posto uomo, l'intestata siamo già fuori. Li ho presi, ho preparato con la loro acqua, con l'acqua di mare, e li ho portati a casa per fare il sugo. Non l'ho fatto, abbiamo fatto il sugo e il sugo piccante con il grano, lo sai che è buono, e poi ho detto a me non mi piace e l'ho dato, l'ho regalato. Capita. No, il sugo del pesce, a me piace anche, ad esempio, quando facciamo la zuppa qua a casa, allora col brodo del pesce, mamma mia quanto è buona la pasta, buonissima, eccezionale, brodo, no? fatto col brodo del pesce, è buonissimo, altro che il brodo di carne, il brodo di pesce è molto, ma molto più buono per me, per i miei gusti, poi ognuno chiaramente ha i propri gusti, non lo so. Avanti Marco! Eia. Sì, è vero, il brodo di pesce, caspita, certe volte è una valida alternativa, anche perché mamma il pollo me lo fa vedere in tutte le salse, in tutti i modi, impossibili, no? Infatti se ci facesse più spesso il brodo di pesce lo gradirei molto. Molto, molto, molto, anzi mi hai mai dato l'idea, Giulio, prossima volta ci sta sempre questo pollo, pesce, brodo di pesce, qualcosa la facciamo, dai. Ok, dai, non ho ancora finito, eh. Non è praticamente sto ruminando, no, sto ruminando io qua. E voglia. Vai, prendete voi, vai Claudio. Ehi, ehi, sì, ma bro, il pesce è giusto, no? Che compri il giuro di cucina. Se compri il pesce, fai la zuppa di pesce. Poi, io quando compro la zuppa di pesce, che la faccio io a Borto d'Urresia, come mi ha insegnato mamma, faccio la zuppa di pesce. Il pesce grande, quando è cotto, lo tolgo intero, lo metto nel piatto alla portata, lo spiro tutto e lo metto a tavola, perché mi mangio bruisce. I pesci piccolini li prendo e li passo, poi colo tutto il brodo e mangio solo il brodo, e si pongo la minestrina, no? No, col pane abbrustolito, le bruschettine e via, però anche col cucchiaio è buono. A me piace, io brodo di carne ne mangio pochissimo. Ne mangio poco perché non mi piace, non mi piace. Mangio la carne, il ghisardo, no? Il lesso, no? La carne lessa con la cipolla, il sedano, le carote, quello lì, lo fa insalata mia moglie, loro si mangiano il brodo, io mi mangio la carne, allora sì. E così faccio col pesce, la stessa cosa. Ma il pesce è buono, fa molto molto bene, molto bene. No, ma un'altra volta era caro, a 12 ho preso il polpino. A 12 euro, belli al mercato, belli. Abbiamo fatto una parte, abbiamo fatti arrosto e l'altra parte abbiamo fatto l'insalata, bollita e insalata, capito? Poi orate, se questo ho fatto un paio di esercizi di mano, come ci raggiungo al mercato. È chiaro, sì, le triglie mi piacciono molto, triglie in verde, triglie a cartoccio, sono molto buone, anche se mia moglie ci sono tutte piene di spine, io ci vado poco, vabbè. Siamo ai picciti grossi, e ho già avuto i vostri. Io pesce lo mangio tutto. L'unica cosa che non mi piace sono le anguille. Le anguille, voi mi direte è una cosa squisita, però no, non mi piace. Non mi piace. Come spendere soldi per la ragosta, tu la svuoti, la fai alla catalana, hai preso un sacco di là e non mangi nulla. Capite? Io prendo le cose delle. Dei granchi o proprio della ragosta o delle li faccio tutti a pezzettini e li faccio a cantarana con cipolla, pomodori, sedano, queste cose così, lo metto giù. Sì, ma è così, infatti mia moglie fa la zuppa, no? Fa la zuppa, fa, poi col brodo, va colato, è ovvio, e poi fa anche la minestrina, ma è buonissimo, a me piace moltissimo così. Vabbè, ognuno, tu mangi solo il brodo senza la minestra, ma io preferisco mangiare anche con la minestrina, per me è buonissimo, ma buono veramente, e tanto che il brodo di carne, adesso che noi il brodo di carne lo facciamo solo dal pollo, perché il mando ci fa bruciare il stomaco, per cui non lo mangiamo, quello di lo fa dal pollo quando fa brodo normale, e magari in mezzo ci mette un paio di salamini anche, no? Per insaporire di più, e va bene, però parla direttamente dalla carne di mando, no, perché quel brodo lì a noi poi ci fa quel problema lì, ci fa quel difetto. Ci viene un leggero bruciore di stomaco e che me lo fa fare? Tanto vale farlo dalla zona del pollo e non se ne parla più. Va bene, avanti Eugì. Ciao Eugì, buon appetito allora, divertiti, alle prossime, ciao, avanti qua. Vai Marco. Ciao Eugenio, buona fine. Dai, sentiamo alle prossime. Via. A me piace, vabbè, le triglie buone, buonissime, molto spinose, quello è vero, ma per il sapore buono si fa il sacrificio. L'orata fatta, a me piaceva sempre in quel modo lì, fatta nel sale grosso, mio. Poi togli il sale, togli la pelle, deve essere bella umida, mamma mia, mamma li turchi, eh? E poi vabbè anche Merluzzo, Nasello, quelle cose che hanno una lisca unica, mie hanno, non hanno praticamente spine, lì ci metti, vabbè, fa in verde, poi io ci metto sempre la maionese sul Nasello e sul Merluzzo, sempre. Sì, beh certo, no, io ripeto, i pesci li mangio tutti, oh, veramente mangio tutto di tutto, non è che non mangio, però ci sono, ho anche delle preferenze, no, per certi cibi, e i pesci però devo dire che mi piacciono tutti, e mi piace molto anche il pesce azzurro, come il piselli, queste cose qua, mi piacciono moltissimo anche quelle, soprattutto quando sono di quelle, quei piselli femmina, no, che ci sono le uova dentro, caspita, è poco sono buono. Le uova, infatti qui non le mangia nessuno, le mangio solo io, le uova dei piselli, quando ci sono. Però il problema è questo, che ogni pesce bisogna mangiare al suo tempo, è ovvio, no? Se tu li mangi fuori stagione, ti ritrovi magari dei pesci non molto saporiti. Mi piace molto il dente, cioè ad esempio, mi piace quel calloso che ha, quello mi piace molto, ad esempio, le trine, le anguille, certo, queste cose qua, mi piacciono moltissimo, tutte queste cose, i saraghi, mi piacciono tutti, mi piacciono i pesci, veramente, però diciamo che tra tutte dei pesci, forse preferisco meglio le anguille fra tutti i pesci, cosa che a Claudio non piacciono, a me piacciono moltissimo le anguille, il numido, anche al rosso mi piacciono, però il numido mi preferisco, Marco. Sì, le anguille, vabbè, io in umido non le ho mangiate arrosto, fatte alla brace, sì, sono belle grasse, mamma mia che buone, a me piacciono anche queste cose grasse, un po' buone, io gran parte delle cose le preferisco alla griglia, proprio alla brace, non alla griglia elettrica, alla brace, come gamberoni, la carne, naturalmente qua non è che, quando andiamo da mia zia c'è la brace, qua non, in condominio non si può fare, se no me ne affutto, faccio come fanno gli altri, che fanno quello che vogliono, metto il grill, il barbecue in terrazzino, oi oi, dai riprendi Claudio. Claudio è andato a mangiare il pesce, via. Poi naturalmente è giusto, poco fa avete detto, ma brodo di pesce fatto col pesce, vero, certo, poi filtrato il brodo un po', e il pesce tenuto, no? Certo non quello fatto col piccolo chimico in bustine, no? E quello, vabbè, in caso di disperazione o di povertà estrema si può mangiare lo stesso. Però non è pesce, quello è fatto. Alla petrolchimica lo fanno quello, mico. Come fanno il vino con le bustine? Aggiungi acqua e fatto il vino, ma per carità. Oh, quello no. Oh, compri il pesce fresco al mercato e poi lo vendono là alla zuppa e sono pesci misti di un po' di ogni genere, no? Ma sono squisitissime, sono buonissime. Anche se ci sono delle spine, non ha importanza, io già le mangio tranquillamente, già ho la pazienza di pulirlo bene, per cui non è un problema. Ripeto, col brodo lo fai un pochino anche abbondante magari, e poi lo utilizzi in un secondo, magari a pranzo puoi mangiare che sui la pasta asciutta con i pesci, alla notte magari il brodo con la minestrina, il brodo di pesce, è squisitissimo, buono, un pochino di formaggio in mezzo, così, di grana, ed è squisitissimo, è un buon piatto, a me piace moltissimo, la verità, non ne ho di problemi, vabbè, non ho problemi con niente, mangio tutto indistintamente, però ci sono delle cose che non mangio molto volentieri, per dire, no? Mangio lo stesso, ma non mangio molto volentieri come certi altri tipi di certi altri piatti, là, diciamo. Con chi stai parlando ora al telefono? Con Marco? Con Marco solo, sì. Ok, dai, che io scendo a portare il cane prima che piova di nuovo, ho visto che è molto nuvoloso. Se ci siete rientro dopo, ok? ok, qua eventualmente ci salutiamo adesso, ciao, alle prossime, dai. E ancora io mi trattengo un pochino, non so se Marco si trattiene, se no pazienza, se no chiudo, anch'io chiudo. Marco, tu ti trattieni ancora? Vediamo, dai. Già la chiamo più tardi mia zia, non c'è bisogno di chiamare adesso. E io. Dai, vabbè Claudio, dai, nel caso ritieniti salutato, se non ci trovi ancora alle 8. Sì, che ore sono? 7:30. Beh, si può stare appena appena ancora. Ma Gianni ha chiuso, già ne ho più rum piuttosto. Ma l'abbiamo chiamato, non ho più risposto. Gianni, ci sei? Ci sarà addormentato. Bravo, evidentemente, è uscito, ma magari sarà andato anche lui a portare il cane, ne avrà approfittato, visto che non sta piovendo in questo momento, sarà così, non lo so. Eia. Però io immaginavo che piovesse di più, che lavasse almeno la macchina, invece, pioggia è questa, va. Già lì stanno lamentando il Po, tutto così, il Po hanno detto che era mezzo, si è molto ribassato, insomma non basta mai la pioggia in Italia, a me, non basta mai, tantomeno in Sardegna. Lo so, purtroppo la pioggia serve, certo che serve, e quando ci sono i bacini tracolmi, qui si scaricano a mare, si può immaginare, siamo messi male, anziché cercare di fare una diga ancora più grande, o farne una supplementare, no, scaricano l'acqua, fate le cose da fatte, non è possibile, se l'avessero fatta qualche diga in più, l'acqua anziché che buttarla a mare quando ci sono tracolmi, è giusto anche che sia così, che ci sia un po' di prudenza, quello è vero, però se facessero una diga ancora più, magari che so io, vicino a quella che c'è e a quelle che ci sono, probabilmente non avremmo mai avuto bisogno di buttare l'acqua a mare, ma comunque speriamo bene. Ma si dovrebbe sollevare un bel po' di vento stanotte, stanotte bisogna fare attenzione alle antenne. Ma per adesso mi sembra tranquillo, poi vediamo, dai, avanti il fischio, chi vuole entrare? Nada? Niente, va bene, poi prima hai nominato i polpetti, vabbè prima mi piaceva anche a me immergermi in 2-3 metri d'acqua a pigliare i polpetti al volo, la cosa più facile, no? Il fucile da sub, ma stiamo parlando, c'era ancora la lira quando andavo, quando qualche immersione la potevo fare, adesso, ui, mamma mia, pensa che già la... come dire, il coso della capitaneria dice che chi fa attività sub, ma anche chi si fa il bagno in mare in estate, dice, deve entrare in acqua in perfette condizioni psicofisiche. Quindi stando a quelli io non dovrei nemmeno sfiorare l'acqua, a chi si occupa il comali. Cesso, cesso. Vabbè. Una volta a Calaviola mi ero allontanato un bel pommi. Mi ero allontanato di brutto e ci avevo... vabbè, eravamo in due e mi viene questa raffica di extrasistole, mi sarà l'acqua fredda anche nonostante la muta, sarà un po' la stanchezza, una bella raffica di extrasistole, sai che ti spezza un po' il fiato, ho detto vabbè, io ce l'avevo di origine nervosa per fortuna, allora ho detto calma e gesso, mi avvicino un po' perché c'era il costone, nonostante fossimo lontani dalla riva c'era un costone comunque di roccia a fianco, ho detto me la faccio muro muro, piano piano, ma è stato un episodio isolato, capito? Però è brutto quando sei in acqua, no, mamma mia, già avevo tutto, avevo un pin, maschera, muta, non è che fossi così allo stato brado, anche perché quello che era con me, non mi sa, se mi fossi sentito male non avrebbe saputo aiutarmi, capito Giulio? Bisogna essere molto prudenti, il mare bisogna essere molto ma molto prudenti. Sì, perché magari ci vuole niente di sentirsi male quando uno va in acqua, magari entra tranquillo senza aver niente e poi durante il bagno potrebbe anche uno sentirsi male, quando uno appena se ne accorge, se è troppo lontano da rientrare diventa difficoltoso, è problematico veramente. Per cui no, io no, non ci vado più il mare. Oh, ma manco bastone. No, non ci vado proprio al mare, non ci vado, posso andare a fare una passeggiata, così sì, ma a mettermi nemmeno in costume di spiaggia, no, assolutamente no. Ormai ho fatto tanti anni di campeggio, quello sì, quando ero più giovane, ma adesso mai più, non ci andrò mai più. Posso andare solo la sera, presto a fare una passeggiata, così a prendere un gelato, eccetera, una pizza, però no, a stare tutto il giorno lì in spiaggia, oppure no, ma nemmeno più sogno. No, non ho più voglia di fare quelle cose, perché al mare io sono sempre dell'idea, uno ha le comodità, e per comodità intendo una casa, però per stare lì sotto l'ombrellone tutto il giorno seduto, anche se non fai niente, quando rientri a casa sembri che ti abbiano pestato col bastone quando sei stanco. No, assolutamente no. Per esempio, a me perché piace il mare, no? Non per l'abbronzatura, perché io praticamente mi abbronzo poco e niente. No, vado proprio per il mare, per il bagno. Mi piace quando c'è caldo in estate, è un refrigerio bello stare in acqua, anche con la... immergendo la testa, no? Per me è un bijou. Almeno platamona che è calda l'acqua, no? Invece abbronzatura io praticamente poco e niente di abbronzo, sia perché non vado tutti i giorni, no, non posso, non, il caldo mi stronca, e sia perché all'inizio stagione metto un fattore di protezione alto, 20-30, e quindi già se metti quello già sole non ne prendi, non ne arriva una frazione delle radiazioni solari. Poi quando mi accaldo al sole vado subito sotto l'ombrellone, cioè no, non sono come quelli che stanno 2-3 ore fissi al sole e diventano come dei tizzoni, no, fuori sole una mezz'oretta, però poi mi piace stare all'ombra dell'ombrellone, leggermi qualcosa o fare un altro bagno, voglia, più di uno, insomma. Invece sì, ci sono persone che sono proprio patite della bronzatura, lo vanno solo per la bronzatura, sì, si bagnano i piedi, chi se lo fa il bagno, chi non se lo fa. Vabbè, adesso vediamo quest'estate, speriamo non sia troppo calda. Poi per il resto mi non parlo perché sennò mi pindaccio da sotto, che è un ferro, ecco. Ehi, quello non è un problema, figurati. No, la verità non ci vado più al mare, assolutamente, ripeto, solo posso andare, solo fare un passeggiato, ma stare lì e tanto meno fare il bagno. Intanto me l'aveva colpito già da 10 anni fa il dottore, perché io ho la crusi cervicale e lombare, figurati un po', se dovessi andare al mare tu vedrai, ma qua dove c'è? Se entri va anche bene, ma io non voglio nemmeno fare quello. Se bagno me lo faccio a casa, basta. Quando cade mi metto sotto la luce e va bene. C'è bisogno di andare al mare lì a trapassarmi, qui a stancarmi, anche se non fai niente. Io ci andavo, mettevo la tenda, facevo 4 mesi di vacanza tutto ogni anno, per anni e anni, si può immaginare, la famiglia, eccetera. Ero ben organizzato, ma veramente ben organizzato, avevo anche la casetta costruita in legno, col cucinino lì, tutto quanto, che poi nel modo come l'avevo fatta diventava anche il posto dove si poteva mangiare, perché era fatto in un sistema velocissimo da piazzare, da smontare e anche da chiudere, perché chiudevi tutto e tutti gli alimenti ce li avevo lì dentro, senza bisogno di stare buttandoli sulla sabbia, quindi no, era tutto perfetto, col suo scaffalettino, eccetera, andava benissimo con la sua cucina, eccetera, eccetera. Ma appunto. Ma eravamo giovani allora, adesso non è il caso di fare queste spacchinate così, o Marco, assolutamente. Infatti, per come sta camminando male mamma, non penso che riuscirà a venire al mare. Cioè, già lì cammina male, qua c'è un pavimento normale, no? Bello liscio, lì tra sabbia, no? Tutta a fossettini, poi entrare in acqua non ne parliamo. Magari aiutata da me, molto aiutata da me, però anche per il caldo, mamma mia, ma speriamo non sia stata calda, però già hanno detto che sarà calda come sta. Vabbè che lo dicono ogni anno, lo dicono ogni anno. E mi ricordo una volta avevano fatto anche un film un po' divertente, un po' boccaccesco, intitolato Casotto, no? E facevano vedere tutte le situazioni tra illustri sconosciuti, no? Che condividevano questi casotti o gabbiotti dove si lasciava la roba, ci si cambiava, ci si metteva il costume, c'è anche chi si portava il tavolino dentro e mangiava le sedie. Guarda, era con Paolo Stoppa, con quello, come si chiama, con la barba, bah, non Johnny Durelli, c'era anche una giovanissima Jodie Foster che mi chiedo come abbia fatto, cioè lei ha fatto Taxi Driver, un filmone cult, a fare un film così dozzinale. Però, sai, per ridere, no? Non so se l'hai mai visto, Casotto si intitolava. No, non l'ho vista con la trasmissione, no, assolutamente no. No, io ripeto, io adesso, per l'età che ho, non mi voglio fare più di furti così, di sacrificio, perché sono furti di sacrificio, anche perché io mi ricordo quando eravamo in campeggio, ragazzi, ripeto, lo facevamo tutti gli anni, per anni e anni l'abbiamo fatto. Tutti, anche i parenti che magari tu vedevi una volta all'anno, quando sapevano che eri al mare arrivavano tutti, con tutta quanta la famiglia, ma quando mai? Tu pensa che, mi ricordo una volta, che io lasciavo la famiglia, io e poi salivo a lavorare, no? Perché ci stavamo 4 mesi, non è che ci stavamo un giorno, per cui io andavo a lavoro. Un giorno mi ricordo avevo portato giù una cassa di birra e una cassa di acqua minerale, questo a luna, quando sono sceso per fare il pranzo. La sera poi sono salito a lavoro, la sera quando sono rientrato, alle 7:30, una cosa così, sono sceso giù, non c'era più né un bicchiere di birra né un bicchiere d'acqua più, se l'avevano tutto bevuto. Tutti i parenti che sono arrivati lì hanno cominciato a aprire bottiglie d'acqua e a bere, sai, con tutti i bambini, eccetera. E io, non c'era un bicchiere d'acqua, tutti consumati, Marco. E dici, no, e queste tutte cose che pagavo io, venivano a mangiare, appunto allora al pranzo arrivavano tutti, dunque ce li trovavi lì e li dovevi invitare a pranzo. E loro non portavano mai niente. Poi dopo, quando abbiamo capito bene l'antifona, come funzionava con questa gente, allora vado, boh, non le facciamo più, così almeno ce ne rimaniamo a casa, se dobbiamo andare al mare andiamo solo quelle ore e basta, e poi rientriamo. E così facevamo. Poi alla fine no, nemmeno quello abbiamo più fatto, Marco, perché non era possibile. Mi hai ricordato un aneddoto simile che aveva raccontato Graziano, no? Che praticamente quando si li organizzavano, no? Ogni tanto c'erano questi giovani, di solito nipoti, no? Non ti consideravano tutto il giorno, poi magicamente all'ora di pranzo comparivano, si bevevano, si mangiavano tutto quello che si poteva mangiare, beh, e poi sparivano, non portavano nulla, una briciola, un goccio d'acqua, nulla. E non sciacquavano pentole, per dire, no, sai, gli fai il favore, il giorno Graziano, no, lo sai, come molto schietto, il direttore Parolini, come dire, non mi vede più in occhio. Stesso, me lo ricordo, sto ancora ridendo. E così lo stesso, hai detto, una cosa simile successe a te, capito? Poi anche all'ora di cena, ricomparivano magicamente all'ora di cena. No, adesso Maria. Ma guarda, poi la cosa più critica, sai cosa era? Oh, Marco, perché tutti quanti si accomodavano, tutti mangiavano, quando c'era poi da ritirare i piatti, eccetera, e da lavarli, tutti sparivano. Senti, se tutto questo lavoro solo doveva fare mia moglie da sola. Ma uno era lavare i tre piatti per me, per mia figlia e per mia moglie, uno era lavare per dire, non so, 20 piatti, perché non va bene, perché c'erano tutti gli invitati sempre che arrivavano, poi arrivavano quei bambini, quello che piangeva. Cazzo, ma se io sono qua solo per cercare di riposarmi un po' e tu mi riposi una schiera di bambini, e quello che piange, e quello che vuole l'acqua, lo voleva uno, lo volevano tutti quanti, e quello che voleva il panino, e tu gli facevi il panino a uno, e lo dovevi fare a tutti quanti, e gli davi un biscotto, lo voleva uno, lo davi a uno, lo dovevi dare a tutti quanti. Ma e tutte queste spese erano sempre dalla mia tasca, capito? Perché loro non portavano mai niente, mai, sai come lo vuole mai. E puntualmente tirano il pranzo, che erano la cena, arrivavano sempre gli invitati. Boh. Ripeto, anche parenti che io vedevo una volta l'anno, parenti anche lontani, come tipo di parentela. Boh, non è possibile. Non è possibile, sai, quando hanno capito che noi eravamo lì, loro venivano puntualmente, magari c'era gente che non aveva nemmeno la macchina e si prendeva il cane, non è che si disperavano per quello, venivano ugualmente, anche in classe, per dire, no? Pur di mangiare a sbaffo, oia, la mangiatoia. A me adesso mi si è ricordato uno degli attori, Gigi Proietti, no? Un giovane Gigi Proietti, no? E lì tra le varie cose un po' boccaccesche, abbastanza boccaccesche, no? C'era anche questa famiglia, no? La cui nipote, Teresina, no? Era appena rimasta incinta, no? E il tizio se n'era fuggito, il ragazzo, no? Il vero ragazzo. Allora stavano cercando di affibbiarla, di caricarla a qualche idiota che si presentava lì di turno, no? Prima hanno tentato con un cugino che era un tontolone, un sonaddo impersonato da Michele Placido giovanissimo, no? Poi hanno visto che con lui non se ne cavava a piedi, allora, sai, scambiano due parole, ma di che quartiere sei, di Roma, forse conosceva tuo padre, allora ci stavano mettendo di mezzo Gigi Proietti, no? In modo che magari da farli fidanzare, no? E poi il figlio era di un altro, però, capito? Già era un po' divertente, no? Quello era, diciamo, il pezzo più divertente di vari episodi del film. Poi c'era un periodo, era stato un anno, che avevamo conosciuto una famiglia di senegalesi, no? Un certo Mamadou, si chiama questo. E la moglie si chiamava Dabba, si chiama Dabba, penso che sia, anche perché erano giovani, saranno sicuramente ancora vivi. E poi avevano avuto un figlio che era nato qui a Sassari. Dunque, bello, un bel bambino, tu vedi che questo bambino negretto, tutto bello, bello, bello, molto bello. Quelli erano di quegli ambulanti, sai, che andavano in giro magari a vendere. E un giorno ci siamo permessi di offrirgli qualcosa da mangiare, perché stavano lamentando che non avevano da mangiare, no? Avevamo delle fettine, abbiamo fatto fettine. La prima cosa che ti hanno chiesto è se erano fettine di maiale. No, noi mangiavano. Se era cavallo, sì, di maiale no, non le mangiavano. Ma tu dovevi vedere questa gente. Beh, poi puntualmente questo qui te lo ritrovavi sempre lì. E quando te lo vedevi davanti lì che stavamo pesando, purtroppo bisognava anche offrirgli qualcosa. Alla fine era diventata un'abitudine, questi venivano continuamente. Che cazzo si è fatto? Boh, basta, adesso a questo punto non è più possibile fare queste cose. Ed è per quello che abbiamo anche interrotto e non ci siamo più andati. Allora andiamo a casa, poi se dobbiamo andare a mare, andiamo la mattina presto, rientriamo verso mezzogiorno, prepariamo il pranzo, mangiamo e poi magari se vogliamo possiamo ritornare. E abbiamo fatto anche così. Però qui alla fine ci siamo stancati e fatto, boh, non ci andiamo più e basta. Anche perché ormai l'età incominciava a essere avanzata e mia moglie non aveva più voglia di fare questi sacrifici, perché devo dire che sono dei sacrifici. Sembra che sia una cosa così di vacanza, da riposo, invece no, è un sacrificio umano. È entrato il sogno. Ehi, a Claudio. Per esempio a suo tempo, mia zia voleva comprare una casa. E lei la voleva in campagna, noi l'abbiamo un po' spinta, invitata a pigliarsi una casa al mare, anche a Platamona, non ce ne frega niente di Alghero. Così siamo andati anche a trovarla al bivacco, anche pur di avere il mare davanti. Niente, ha voluto la casa lì a Zona Bancale, Monti Minoldo, perché in estate c'è un caldo boia, è tutto secco, mamma mia, non era meglio una casa al mare. Vabbè, gusti suoi, a lei piace zappare, a lei piace fare i lavori lì, sta sempre lavorando in campagna, praticamente è un lavoro anche quello. Vabbè, contenta lei. Vai Claudio. Non so di cosa stavate parlando, mi sono entrato adesso, c'è un freddo fuori, allucinante. Tutto calata la temperatura, neanche 10 gradi ci sono, vabbè. Non so di cosa stavate parlando, riprendi giù. Okay. Stavamo parlando del campeggio, che quando abbiamo fatto il campeggio poi arrivavano tutti i parenti e tutti a mangiare gratis lì, e nessuno si permetteva mai di portare nemmeno una bottiglia d'acqua, per dire, no? E puntualmente all'ora del pranzo, all'ora di cena, siccome noi facevamo per 4 mesi ogni anno di campeggio, e puntualmente te ne trovavi i parenti tutti, un giorno una famiglia, un giorno l'altra, un giorno te ne trovavi anche due in famiglia, e dunque quando stavi pranzando, cenando, dovevi invitare, e allo stesso tempo la pagava era sempre il pantalone. Ecco qual era la discussione, era quella, qua. Ma succede anche adesso, non è che io ho una correttezza in queste cose, a volte se vede l'alghero e sali, va. Se ci sei faccio un salto dopo pranzo, prendi caffè e poi me ne vado. No, sali a cena, no, assolutamente, punta. Succede, periodo estivo soprattutto. In campagna, sai, con le cugine fatte visita, è sempre a mezzodì e mezzo, a mezzodì, la sera alle 7, 7 e un quarto, 7 e mezza, capito? Ma sai che sono tutto il giorno lì, no? Beh, ho mangiato, capito? Offro il caffè, fai colazione con me, ci prendiamo un aperitivo, poi ti togli a mezzo le balle, però, capito? Molta gente fa queste cose, io andiamo, intanto sarà lì, già. Non è a Baidani che è l'una, no? No. Sì, la gente infatti è sfacciata, dai, è tutta sfacciata. Io per me li considero anche maleducate quelle persone. Se tu devi venire a farmi visita, non puoi venire tu all'ora del pranzo. Io posso anche accettarti una volta e va bene, ma se poi diventa un'abitudine per mesi, non va più bene. O perlomeno uno non è che pretendo che tu non ci venga più, questo non te lo dico. Però secondo me non è nemmeno corretto presentarsi all'ora del pranzo o all'ora del cena quando uno... Ok, stavo così, stavo così. Allora poi ad esempio c'era una cugina di mia moglie che aveva 4 figlie femmine, tutte e 4, erano piccoline tutte. Questa aveva il coraggio barbaro secondo me di venire in tram, col tram. Veniva, arrivava, magari arrivava già con i bambini già piangendo. Carità musica, questa orchestra, ma se io sono qua per fare un pochino di vacanza, per riposarmi, e tu me ne porti, cazzo, quattro bambine che quando attaccano a piangere non la smettono più. Volevo un bicchiere d'acqua uno, lo voleva anche l'altro. Volevo un panino uno, lo voleva anche l'altro. Ma questa è una cosa continua. Se non glielo davi si mettevano a fare le sedie, magari le stigioline se le rovesciavano. Ma perché ti sto dicendo una cosa, guarda, è impossibile. Alla fine ci hanno costretto a non fare più campeggio, quindi almeno non ci siamo e non ci vengono più. Poi tra l'altro era un parente che noi vedevamo una volta all'anno o qua. Ecco qual era il discorso. Però avevano saputo che noi eravamo lì e veniva puntualmente con la scusa di andare al mare anche loro, però venivano da lui, non è che venivano loro con la loro organizzazione, con le varie seggioline eccetera, no, caspita, andavo a cercare una sedia, quando rientravo non veniva perché era occupato da tutti i cantieri, ma dico io, appena mangiato tutti quanti, appena si era finito di mangiare tutti si alzavano e se ne andavano e i piatti dovevano fare mia moglie, no, non andava così, no, capito qua? Sì, ma è una cosa che non sopporto io, Giulio, cioè ormai non mi ripeto, perché sai, in un contesto domenicale o festivo, no? Ci possono essere anche delle cose che tu hai organizzato per stare a casa, non vuoi rotture di scatole, eccetera. E in quel contesto la gente ne approfitta, non sa, dice, ma cosa facciamo stasera? Ma io andiamo a trovare, tanto già è a casa. Senza rendersi conto che una telefonata non fa male, perché se io sono indisposto, nel senso che non ho giovane di compagnia, mi voglio riposare, me ne voglio stare con mia moglie e mia figlia, eccetera, ti trovo una scusa al telefono, no, guarda, devo uscire un impegno, mi dispiace, perché non mi hai avvertito prima, mi dispiace, qui e là, pulisce una valla, ma andando delle biombane all'improvviso, non è che puoi dire alle 8 di sera, ehi dai, ciao, devo mangiare, no, che c'era adesso che siete qua, capito? Quindi diventa una cosa quasi obbligata, perché se io voglio rimangiarmi una scatoletta di tonno, parlo di X, come devo mettere a cucinare, oppure, sai, ci sono quelli per non mettersi a cucinare, ehi dai, rimanetevi che ordiniamo le pizze, e tu paghi. E sono costi che la gente purtroppo non si mette in testa che ai tempi come siamo, non è che ti puoi permettere, anche se ne hai, no? Ok, però sono cose che uno o le organizza, le prevede, sai che, ecco, domenica ci facciamo una bella pizzata, sai che devi spendere 100 euro e devi spendere. Ma quando non li vuoi pindii, o le vuoi impegnare in un'altra cosa lunedì al mercatino, mi voglio fare 100 euro di spesa, e sei obbligato a spendere la domenica che te ne arrivi da niente all'improvviso, a me mi si girano i pibilisti. Sì, ma è così, perché io forse perché non ho quel carattere lì, non lo so, però io ritengo che sia sbagliato andare così proprio all'ora del pranzo, così improvvisamente, senza avvisarmi e niente. Cosa ne sai se io sono disponibile in quel momento a riceverti? Cosa ne sai se io ti posso ricevere, se ti posso invitare? Tu non, queste cose non le puoi sapere, dunque tu non puoi venire improvvisamente qui, no, va bene. No, stavo dicendo, appunto, mi ricordo una volta avevo portato, come io facevo 4 mesi all'anno di campeggio, c'era la famiglia lì, e noi, la mia famiglia eravamo 3 persone, io, mia moglie e mia figlia, no? E la mattina a luna ho portato giù una cassa di acqua minerale, ho portato, è una cassa di birra, ma passa viene qualche fratello, almeno gli posso offrire un bicchiere di birra, eccetera, io magari non le bevevo lo stesso. Beh, la sera arrivo alle 7 quando sono rientrato al lavoro, vado giù e faccio a mia moglie, dammi un bicchiere d'acqua, fa cortesia. Ma se no non ce n'è più, tutta consumata l'acqua, non ce n'è più, come sono portato a pranzo, sì, tutta consumata, anche la birra, tutta consumata, non ce n'è più. Ti puoi immaginare qua? È di biliardo, la birra paese, per la comunità di questa gente, ma tenando, questo che non va bene comportarsi così in quel modo. A me la dire, beh, esce che vado, la compro io, o un paio di bottiglie di birra e ce la beviamo, no, la birra mia è già divido, anche se io sinceramente non la bevevo per dire, ma per dirti, no, come stanno le cose. No, ma c'è gente sfacciata, no, ma io campagna di più estate, sai. se ci sta, c'è tutto. Ma le amiche di mia figlia, le colleghe di mia figlia, le telefono a mia figlia, capite? Mai ci sono venute senza avvisare, niente. Io li devo cercare, mai vengono a rompermi le scatole, né vicini, né qui, né là. A volte li cerco io, dico, vabbè, ma non faccio per te caffè, io sì, sono a casa. No, beh, come è? E mai vengono a mani vuote. Chi viene con una bottiglia di vino fresco, sai, vino d'estate, quel frizzantino, ce lo beviamo lì nel gazebo, sotto la veranda, eccetera. Chi porta la birra, chi a volte un dolce, chi porta le paste, chi la... Però mai, né a mani vuote, mai intrusi così, come si dice, infiltrati, no? Come ti vedi? Mai. Cioè, li cerco sempre io, li invito io, poi mi invitano loro. Sempre così. Ma c'è certa gente da fare impressione. Io mi ricordo quando mamma aveva la casa, ce l'ha ancora, a Alighiero, a Fertiglia. Ma mio sabato e domenica non si poteva stare. Tutte queste amiche, all'improvviso, così. Oh, ciao, vino, come ti stai? E allora di cosa? Mezzogiorno, 11:30, ma non siamo anziani in più, non c'è la sera lo stesso, dalle 7 in poi questa casa è sempre piena di ieri. Allora gli ho detto, ma io non ci vengo più qua, non ci può stare tutta l'estate con tutta la gente in mezzo alle bene, cosa volte mi video, a te la culo vola, ma mica non ci sei, mica è un impegno, mica sei uscita, e anche non mi vedi né chi sono a casa, ma non esiste una cosa del genere, non esiste. E senza portare un bicchiere d'acqua, mai. La Caresi, madre di Dio. Avanti Breck, da Franco. Confermo, buonasera a tutti. Claudio, te lo posso fare solo uno squillo, non c'è bisogno che rispondi per cambio numero, così ti aggiorni. Ah, bene, l'altro lo cancello? Sì, confermo, devi tenere quello con cui ti faccio la chiamata. Perfetto, ma telefono di ultima generazione, WhatsApp o sempre niente? Non hai niente? No, il telefono è modernissimo, però il numero solo che mi hanno assegnato, uso solo quello e basta. Ho eliminato un po' di numeri inutili, ti sto facendo una chiamata. Perfetto, mandamelo già fra, così tolgo quello che c'è tuo con nominativo e inserisco quello, ok? Ok, ti sta squillando, quindi te lo puoi memorizzare, d'accordo? Grazie già. Ok, perfetto, adesso me lo memorizzo. Avanti Giulio per salutare Gianfranco. Ok, ciao Gianfranco. Ben entrato, non so se ti trattieni qua un po' con lui. Va bene, dai, facciamo girare per Marco. Avanti Marco. Ciao Gianfranco, dopo secoli. Stavamo entrando poco anche noi, ancora questi giorni stiamo di nuovo tenendo a galla il canale. Ben sentito. Sì, buonasera a tutti. Ciao Giulio, ciao Marco, anche tu eri da tanto non entravi. Diciamo che quando sono in macchina, ad esempio, ascolto sempre, ma non qua, su quell'applicazione che hanno fatto, che è molto interessante, molto carina, diciamo, per me sono tutti lì, poi c'è tantissima gente, quindi per fare un percorso lungo strada va bene, non ti distrae, bella hospital che si chiama. Riprendere pure, io sono qua in ascolto comunque, c'ho anche la prima, ma poi io sento Claudio. E gli ho dato questa comunicazione. Riprendi pure Claudio. Sì, quascella, me la sto memorizzando. Perfetto. Me l'ho memorizzato. Ok, e Gianfranco la sera a volte così facciamo due chiacchiere qua. E basta, niente di che, giusto per trascorrere la nostra oretta, dopodiché si va a cenare e si rabbiglia il lucci. Vai Giulio. Ok, sì Gianfranco, anch'io con l'applicazione lì diciamo che la seguivo un po' prima, adesso non la sto più seguendo. C'ero sempre, però non mi ha scocciato, perlomeno la versione canali, cioè la versione gruppo non mi interessa, troppo affollamento, troppa gente, poi questi di fuori sembra che vogliono parlare solo fra di loro, per cui non è che... non è molto bello, magari sulla versione canalizzata quella è già diverso, quando alle volte ci sono qui persone della zona di Sassari, allora qui Biglia qualche volta già entro sul canale 14, noi di solito quando andiamo lì andiamo sul canale 14, c'è molto spesso c'è Antonello Pomponi o c'è Giuseppe De Uncino e qualche altro anche, per cui va bene, ma non ho più acceso già da giorni, non ho più acceso, non mi interessa più di tanto, per me il baracchino è un'altra storia. Comunque premesso che quello è molto interessante perché parli con tutto il mondo, parli, tanto è vero, anche tempo fa ho avuto il piacere di parlare con Salvatore Branca, che lui adesso ormai era trasferito in Austria, era trasferito per questo lavoro eccetera, e ci siamo sentiti, ci siamo salutati e due volte l'ho sentito, ma poi non ci sono più entrate, non so se lui sta continuando a usare quell'applicazione. Comunque ripeto, è interessante, la Midland ha fatto una bella cosa, a chi piace va bene. Vabbè, avanti Marco. Ehi. Sì, interessante, come hai detto tu, Gello ha delle cose positive da una parte, che puoi fare anche un canale privato con password, oppure a vari livelli, no? Cioè libero completamente, oppure chi entra deve chiedere il permesso, oppure chi entra può solo ascoltare o addirittura privato. Poi c'è il bello di CBTAL che è proprio quello che ha i canali in locale. Perché quelli dei gruppi nazionali sono illustri sconosciuti per me, e poi quando sono tanti su un canale, 30, 40, è difficile anche gestire, cioè, praticamente non ti rilanciano mai. Ecco. Però è molto interessante come cosa, molto molto. Va bene, senza attarare antenne, azzuffarsi, concessioni, bello, premi. Ne parlavamo di tante queste cose qua, come quelle radio Enrico che usavano Gello e anche l'equivalente di Ecolink inglese, tutti quei sistemi là, dai, eccetera eccetera. Bene, penso che presto mi farà la bioccomi. Ho notato che dalle 9 alle 10 di sera, io quando sto in poltrona a guardare l'inizio del film, sai, delle 9, e mi si chiudono gli occhi dal sonno, mi piego in poltrona dal sonno, non riesco a seguirlo. Poi dopo che passano le 10, 10 e mezza, quella prima fase, non si dorme più, a pastiglia devo dormire. Vai Claudio. Ma perché questa situazione? Non la capisco. Perché faccio un sistema di vita sregolato. Poi l'altra mattina vorrei dire, una follia, io non dormivo, ho fatto l'una, due, tre, quattro e cinque, diciamo che alle cinque non dormivo, a me è venuta sta fame, mi sono mangiato una scatoletta di sott' olio, mi sono preso i peperoni grigliati mangiati col pane alle 5 di mattina, perché tanto non dormivo e non dormendo mi era venuta anche fame. Figurati là, insomma, che tengo io, già lo credo. Mamma mia, come che fai? Giulio. Hai ragione, proprio quello lì è un sistema di vita proprio scombussolata, veramente. No, dovresti cercare di abituarti in maniera regolare, o Marco, pranzare all'ora che si deve pranzare, perché se no così non va bene. È chiaro che tu mangi a quest'ora, poi ti metti davanti alla televisione, ti prendi un po' di sonnolenza, poi magari ti svegli perché senti ancora la televisione che è accesa, e poi non dormi più, beh è ovvio, invece cerca di mangiare le 8:30, anche le 9, e poi appena che vedi che ti stai incominciando ad addormentare vattene a letto senza guardare televisione, vedrai che dormi di più, perché così fa anche male. Come si fa a non dormire la notte? E non puoi andare a forza di pastiglie, perché le pastiglie a un certo momento non ti bastano più, quando tu sarai assuefatto dalle pastiglie, e cosa fai? Allora non dormirai più 24 ore su 24, non si può fare così, ma devi cercare di rimediare a questo sistema così un po' scabroso. Va bene, dai, avanti Gianfranco. Infatti quella non è più vita regolata, che con quel termine si intende altro, quella è già una patologia, Marco. Di lì è solo una questione del tempo, poi le conseguenze non sono tanto belle, quindi spiegami, tocco le palle, metti briga e prima ci guadagni in termini di salute. Riprendi Claudio. Sì, ma lui è tanto tempo così, cioè non capito, anche perché il sistema che lui ha, nel senso anche del pranzo e della cena, è tutto scombussolato, gli orari sono un po' a casino per capirci, e conosci pure che tutto questo contesto risuoni sul fatto che non riesce anche a dormire, non bisogna vedere, cioè può essere, non può essere una patologia, può essere anche una fase, una cosa di abitudine. Quando è abituato, il corpo, la mente, si abitua a quel sistema, non è facile cambiarla, capito? Giulio? Lo so che non è facile, però si dovrebbe magari mettere nelle mani di qualche medico che lo possa consigliare per vedere di risolvere questo problema, perché se lui va avanti la notte a forza di pastiglie non sta bene, anche perché adesso ancora che è giovane lo sta già dicendo lui stesso che non ha voglia di niente, che non si sente fisicamente bene, si sente debole, non ha muscolatura, non ha niente, e tutto questo può essere anche dovuto a questa mancanza di riposo, che una persona ha necessità di riposare almeno per le 7-8 ore ogni notte, almeno a quell'età, poi magari se comincia ad avere un'età più avanzata possono bastare anche 5-6 ore, ma devono essere 5-6 ore di sonno però, ma se lui fa solamente così un'ora e la fa questa tremolenza che gli viene in poltrona, capita, e non è detto niente, quella è proprio una patologia che deve essere curata, io penso che sia così, cioè deve cambiare assolutamente il sistema di vita, non si può continuare in quel modo. Vabbè, dai, avanti Marco. Ehi, quante volte l'ho detto, non ci si riesce, non ci si riesce, dai. Diverso era quando mamma andava a scuola, capito? Mi svegliava anche prima, ma andavo a letto prima, tante cose. Oh, d'altronde il medico cosa ti può dire? Vado a letto prima, quando le viene il sonno lei va a letto e dorme. Ma io sai, mi voglio vedere il primo film, il secondo film, poi se c'è un terzo meglio ancora, capito? Se no, se mi cerchi, mi viene alle 9 e dovrei andare a dormire alle 9 di sera. No, non esiste. Certo, dove una via di mezzo ci vorrebbe tipo a mezzanotte, cioè già con il cazzo, poi dopo mezz'oretta ti viene il sonno, così vorrei fare, almeno a mezzanotte, a cercare di pigliare il sonno. Per me andrebbe di lusso, tanto poi non dormo più di tante ore, perché il rischio è quello, se vado alle 9 a dormire e magari alle 9:30 mi addormento, alle 3, alle 4 sono sveglio, capito? Non sono tantissime le ore di sonno, contate che io sto molto a letto anche da sveglio, poi quando ci sono questi smartphone non faccio altro lì che le notizie di oggi, quindi no Sardegna, ansa.it, novità, è uscito il nuovo su YouTube, mi guardo i video degli smartphone usciti, eccetera, eccetera, insomma, mi sta prendendo più tempo della TV lo smartphone, sto pigliando il vizio, però niente social. A proposito, Gianfra, si può dire cosa hai preso di marca? Samsung, Asus, Motorola? No, il telefono è sempre quello che avevo, io c'ho l'Asus, però non è neanche un modello ultimo. Non so neanche, ecco il Zenfone, quello lì, che è quello Zenfone, insomma, non è roba nuova, dai, non... ci vada matto. Tra l'altro non c'ho neanche nessun social, perché li odio, nonostante lavori nel campo, però per me è come la peste, quindi li esito. E poi c'ho un po' di roba che sono sempre telefoni, di quelli che hai citato più, quindi Enrico, e poi ce n'è uno che non so neanche il nome, ce l'ho qua che è piccolo, portatile, sempre in versione radio telefono, cioè Walkie Talkie anzi, però non ci leggo neanche, so giusto accenderlo, poi premere il pulsante PTT, tutto lì, però non so, cioè così talmente piccoli caratteri che alla vecchiaia, sai com'è, la vista inizia a essere molto molto ballerina, caratteri piccoli non si fanno neanche a palla, quindi niente, tutto lì. Riprendi Claudio. Idem, è la stessa cosa, io con il telefono è che io c'ho il mio Galaxy della Samsung e basta, va bene così. Mia figlia si è ricambiata un volante, si è preso il 9, S9, vabbè, è giovane, può fare quello che vuole, io non ho nessuna prospettiva, va bene così, basta, risponda, c'ho WhatsApp, le mie cosettine e basta. Avanti Giulio. Ok, ma io ho quello Huawei, no, discreto, non mi va bene, poi io non ho. C'è tutto, c'ho anche internet, c'è tutto, insomma, no, va bene, come gestore di rete o poste mobile, mi va bene, 30 euro ogni 3 mesi, praticamente 10 euro al mese, però mi pago trimestralmente, per cui va bene così. Comunque per la cronaca ho sentito che quel negozio che c'è lì in via Pascoli, in via Giovanni Pascoli, di fianco alla tua guida c'è un negozio dove vendono telefonini e so che costano molto ma molto di meno di tutti gli altri negozi di Sassa. Questo per sentito dire. Non è che ci sono andato io direttamente, però l'ho sentito dire da gente che va appunto comprato lì. E vabbè, comunque. No, io ripeto, mi piace la tecnica, mi piace, però non le faccio. Perché sono rubati. Che costano tantissimo. No, assolutamente no. Ne ho due, uno normalissimo e più questo è il smartphone Huawei e va benissimo così, e sto contento. Quando sarà, e poi i telefoni ne ho altri messi da parte già dagli anni, addirittura anche quelli antichi di una volta, quelli tipo cabina telefonica, io la chiamo, grande, grandissima. Io in tutto ne ho una decina di telefoni, tutti funzionanti, li ho conservati, li ho messi dentro la scatola, li ho conservati. E ne tengo due perché nel telefonino che avevo prima, che è quello che ho già da alcuni anni, e ho tutti i numeri di tantissime persone, o vedo, sono loro che non hanno il mio numero, o quello nuovo, quello dello smartphone. E allora da anni, anche quando lavoravo, tutti i clienti avevano quel numero lì, così ho ottenuto. Può sempre servire. E ne ho due, un telefonino normalissimo e più questo smartphone. E va bene così. Ne prende già fa. Sì, no, ma a me va. Guarda, io prima prendevo sempre telefoni da 4 soldi, quelli cinesi, che che nonostante tutto quello che si dice, comunque hanno vissuto, anzi sono ancora vivi, si può dire. L'unica cosa che hanno avuto come difetto è stata quella di avere problemi allo spinotto, praticamente, perché a forza di stare lì anni e anni togliendo, caricando, io il telefono lo tengo acceso giorno e notte, H24. Quindi ovviamente caricandolo spesso, prima o poi qualcosa si rompe. E niente, questo, l'Asus va abbastanza bene, anche va benissimo perché gestisce anche i sistemi sia di comunicazione radio sia quelli di controllo video. Quindi di più ne vuoi, più di così, per me ce n'è troppo ne avanza. Addirittura poi anche la versione con, non so se sia 32 giga, forse 32 giga, che comunque per un telefono è un valore enorme, quindi anche la versione meno costosa, io lo prendo sempre da fuori, comunque i telefoni che costano enormemente di meno. Tutto lì. E niente, poi si collega anche alla macchina, gestisce la macchina, poi no, potrebbe anche mettere in moto, quindi no, tutte queste cose. Solo quello lo fa e costa, credo che costi 120 euro, 120, 130, non di più. Riprendi Claudio. Sì, ma costa un telefonino, chi non ha grandi pretese, va bene così, lo pagai intorno ai 160, 170 euro, va bene così, ma per dire... La figlia di Giulio che ci lavora ci avrà sicuramente un telefono d'ultima generazione che costa un sacco di soldi. Mia figlia la stessa cosa, mia figlia gli arrivano tutti gli ordini perché lei si occupa anche di ordinare merce eccetera, gli arrivano tutti, cioè tutte le giornaliere inserite, le manda anche in azienda, l'azienda le manda a lei, le gira alle sue colleghe, cioè hanno un sito aziendale, cioè quando uno ha un telefono che serve per determinate cose, gli incassi giornalieri, insomma tutte le cose, e ci lavora, allora deve avere un telefono con internet ben aggiornato, tanto è vero che lei mi fa che ci abbia 20 giga, una cosa del genere, io ne ho 3, figurati, a me non mi serve io internet, lo uso pochissimo, già il computer di casa, e soprattutto per telefono, io quando c'ho il numero di telefono, se c'è lo trasmetto, c'ho WhatsApp, a me di andare a avere cose su internet e sul telefono non mi interessa, c'ho quello di casa, accendo quello, ogni settimana lo accendo, guardo le mail, guardo se sono comunicazioni che mi interessano, se lo prendo lo spengo, mi faccio un controllo così, una giratina su eBay, su YouTube, così, però sempre con quello di casa, capito? Con questo non lo uso, infatti è perché c'è WhatsApp che è molto importante, insomma a volte ci scambiamo delle cose anche di lavoro, mi chiedono delle cose che io ancora ho e quindi mi va bene, ma internet non lo uso, quindi avere un telefonino costoso per non usarlo, no? Infatti io regalo tanti di quei giga alla team, io sono team immobile, mi pare 20 anni, non ho mai cambiato, io e mia moglie siamo team, mentre mia figlia è Vodafone già da tanto tempo. Avanti Marcolì, altre 10 minuti, se no poi chiudo perché è già pronta la cena, poi c'è la partita, mi guardo la partita di Champions su Rai 1 qua in stanza, perché dall'altra parte c'è qualche altra cosa che loro devono vedere. Avanti Marco. Io, hai detto 20 giga, ma non penso sia RAM, ma assolutamente no. No, in memoria avrà anche di più. Memoria, vabbè, adesso sotto al 32 magari non ci va, memoria interna 32, 64, 128 eccetera, e di RAM insomma magari adesso meglio non scendere sotto i 4, ma per i telefoni che acquistati oggi come oggi, in modo che quella pesantezza di tutte le applicazioni, in modo da non buttarlo dopo un anno. Comunque il primo smartphone che ho avuto, quello di 3 anni fa, era già vecchio di un anno, io non sapevo niente, ho preso la cieca, e comunque il problema della memoria era proprio un bug, era un bug non risolvibile nella gestione della memoria, per cui anche avendo spazio vuoto ti diceva memoria piena, spazio libero insufficiente, no? Non potevo aggiornare applicazioni, un giga di RAM aveva, 4 in memoria, ui, carezza. Questo è un confronto vola, tanto io mi... Non niente Facebook, più che altro mi interessa navigare, pagine internet e YouTube. WhatsApp sì, c'è, ma poi poco lo stiamo usando, almeno io. C'era un giochino di prova, visto che vola, voglia, non scassa, eccetera. Ce n'è d'avanzo. Ce n'è molto molto d'avanzo. Voglia. Sì, adesso Claudio, siccome è uscito l'S10 e tutte le varianti, allora già è sceso di prezzo l'S9, è sceso di prezzo. Presumo stia scendendo anche l'S9 Plus di prezzo, che era il top di gamma, no? Bello, bello. Però fine, meglio stare nel medio gamma. Sì, dai 150 ai 200 euro, ma anche 250, se proprio se ti piace, magari c'è una fotocamera migliore, no? Va bene. Tant'è che ho praticamente abbandonato i computer veri e propri, computer portatile, nonché il fisso, dove ho ancora Windows XP, li ho praticamente abbandonati. Perché devo me ne devo andare in quella cameretta lì, attaccato al tavo lì, alla DSL? Persino le reti mobili sono più veloci della DSL che ho io, che una Tiscali 8 mega, e lì sono 60 megabit al secondo con o mobile, che sarebbe Vodafone poi. Sì, io lo stesso, ho 8 giga, però la rete me ne fornisce solamente 7, me ne fornisce, e ho tutte le giga, bastano più che in abbondanza, tipo 1000 messaggi, giga, così è. 7 giga, ne sono più che sufficienti per come lo uso io. Anzi, c'era un periodo che lo usavo anche con il CB-Talk, lo usavo tranquillamente, però quello ti consuma troppa batteria, allora l'avevo disinstallato, l'avevo, e quando devo vedere il CB-Talk allora prendo il tablet è più grande, e dunque mi dura almeno 3-4 volte il tempo della batteria del telefono come durata di batteria, e poi è anche grande, si vede meglio, e poi anche un'altra qualità di trasmissione e anche di ricezione rispetto al telefonino. Però diciamo che tutto sommato mi sono stancato anche di quello. Sì, di tanto in tanto lo accendo e vado a sentire magari Antonello su canale 14, quella la versione canalizzata, e qualche altro che c'è sempre. Alle volte sento anche Pierpaolo della Terolce con Antonio, il figlio, e così. Però, ripeto, col telefonino non voglio sfruttare troppo la batteria, perché va a finire che poi devi cambiare la batteria. Perciò no. E poi lo uso solo a casa, quando entro su quella cosa lì, su quell'applicazione CB-Talk. Poi per il resto non più di tanto. Ma poi dai, avanti già fa. Sì, io ho due schede, ma quella lì che c'è sull'Asus c'ha 50 giga di traffico dati, e l'altra invece che c'è sul portatile ne ha 30, quindi sono più che sufficienti a fare quello che bisogna fare, tanto più che altro mi servono per il telecontrollo, qui passa molta roba, perché gestiscono tante telecamere che sono tutte in Full HD, quindi c'è un flusso un po' corposo, però insomma c'è ce ne ho fatto, a fine mese non consumo neanche 5 giga, figura. Riprendi, Klaus. Sì, K. Va bene, dai, io riprendo, vi saluto, mia moglie mi ha già chiamato, sono le 8:30 quasi. Ciao Gianfranco, ciao Giulio, grazie per le due chiacchiere, ciao Marco lì. A domani, se Dio vuole, ok? Ci sentiamo. Riprendi Marco, ascolti i finali, poi chiudo, ciao a tutti. Scusa un attimo, guarda per canale 1, Claudio, guarda il canale 1. Vabbè, ciao, ci sentiamo, riprendi Marco. Sì, sì, lo sto guardando, stiamo facendo vedere i gol che ha fatto Ronaldo, sì, sì. Sì, vabbè, riprendi Marco, scusa. Ah, roba di sport, ahia. Oh Giulio, nemmeno... No, com'era? TV Tap, non l'ho più aperta, lo stesso Civitalk che non l'apro da... Non l'apro da giorni, settimane. Tanto quando l'apro controllo tutta la lista utenti in rosso, cioè non c'è nessuno. Allora... Vedrai, la toglierò, la disinstallerò anche, perché a lasciarla lì inerte, a fare solo i ragionamenti non serve a niente quell'applicazione. Preferiamo per quanto possibile usare il baracchino, poi quando non sarà più possibile, vabbè. Va bene, ciao Giulio, ciao, buona serata. Ok, adesso chiudo anch'io, sì, così vado a cenare e poi vediamo un po' la partita, vediamo anche vincere. Siamo un'altra un'ora e mezzo davanti alla televisione guardando il calcio. Ormai sono ausaffatto dal calcio. Vabbè, comunque, ci sentiamo. Dai. Ciao Marco, grazie anche a te per la chiacchierata. Ciao Claudio, se sei ancora ascolto, dai, buona cena e buona partita. Ciao Gianfranco, entra più presto la sera Gianfranco, così ci facciamo una chiacchieratina un pochino più lunga. Noi di solito la sera entriamo verso le 6:30 più o meno, dai. Però perlomeno se non c'è nessuno, sicuramente qualcuno è all'ascolto, fai la chiamata, già ci facciamo sentire senz'altro. Se prendi Gianfranco, dai, saluta loro e ascolto anch'io il vostro finalino dopo che è chiuso, vai, vai Gianfranco. Sì, ok Giulio, ciao Claudio, innanzitutto buona cena, buona serata. Ciao anche Giulio, buona cena, buona serata. Ma guarda, io di norma sono sempre in ascolto, però tra una cosa e l'altra non c'è mai tempo di fare niente. Sono in ascolto, però sto facendo anche altra roba. Quindi è così, purtroppo il tempo è quello che è. Riguardo a Marco invece non ho capito quello che stava dicendo, che è sempre in rosso, perché io lo utilizzo con l'applicazione, secondo me a livello di canale è sempre zeppo, sono tutti zitti. Ah, perché tu vai su locali nazionali, no? No, io in locale, no? Per esempio apro l'applicazione, metto la modalità canali, guardo sulla lista contatti, diciamo, no? Non utenti canali, lista contatti, e sono tutti in rosso, proprio l'applicazione ce l'hanno chiusa. E allora spengo direttamente, no, non vado mai su canali nazionali perché poi sono illustri sconosciuti, certi sono diffidenti, certi hanno modo di fare veramente un po' indisponente, soprattutto certi del sud, adesso non voglio generalizzare, ma ci hanno modo di fare come facevano per il resto alcuni CB a Sassari negli anni 80, capito? Quando eri nuovo subito o a sfottò, o insomma non è un modo di, diciamo, di accogliere un nuovo entrato, ecco. Già lo sai, no? La cionfra che c'era negli anni 80 e 27. E vabbè, quindi no, penso non lo userò più. TV Tap, quell'applicazione che ti faceva vedere canali di calcio a sbaffo, anche Sky Cinema 1, Cinema 2, quelli là. Poi già Sky mi pare che abbia pagato questa società che fa questo software per non mandare i sui canali di Sky Cinema e anche quelli di Italia, quindi molti canali sono spariti, non mi serve più. Qui anche quando c'era non ne guardavo, detto tra noi, non ne guardavo. E infatti proprio terrò quello stretto necessario, preferisco aggiornare le applicazioni di uso giornaliero e togliere tutto il surplus, non che non abbia spazio adesso, voglia, quello sono 60, vabbè, teorici 64 giga di memoria interna, poi c'è la scheda SD 32 che potevo anche non mettere perché poi non serve, quello serve se scarichi migliaia di video, se fai migliaia di foto di video, se no non, per due foto che faccio ogni tanto non c'era manco il tanto di mettere la micro SD. Va bene, dai Claudio, riprendi che sto per mollare io, sto per dare i forfetti. Claudio, mi sa che l'abbiamo salutata e anche chiuso, probabilmente sta anche cenando. Claudio, sì, vabbè, allora se si ascolta ancora, dai, ci sentiamo alle prossime, Claudio. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao, è ora che ho chiuso, ciao. Veglia, embriago io, noi ad acqua gassata. Piricola non bevo. È una buona sera che ha fatto capolino. E cosa ti dicevo Gianfranco? No, io avevo preso, rimanendo scioccato da quello che avevo prima, avevo preso un Huawei P Smart Plus, è un 464, 4 RAM e 64 in memoria, costava 2,99, non avrei mai speso una cifra così alta, però ho detto, la prima volta l'ho spesi anni fa 150, non c'era spazio né in lungo né in largo, ho detto raddoppio la cifra, poi per fortuna l'ho trovato a 2,59, ma ce n'è d'avanzo, per quello che non faccio, che faccio e che non faccio, ce n'è d'avanzo. Ma se tiene, se non mi si rompe il vetro e dura la batteria, cerco di farmelo durare il più possibile. Guarda, non ho mai avuto un telefono di costo superiore alle 100-150 euro, ma esagerato, perché so benissimo che poi è tutta la tecnologia che fa sempre la stessa cosa, qualcuno la fa meglio, qualcuno la fa peggio, ma non è detto che può fare di più. Faccia meglio, vedo di nuovo di Samsung che addirittura esplosa anche la batteria, quindi è tutta cosa, diciamo, per invogliare la gente a cambiare il telefono quando non c'è motivo, perché un conto se si rompe, un conto invece per pensare illusoriamente tra l'altro di avere qualcosa. Intanto ti dico una cosa, io ci lavoro, è inutile avere anche la fibra ottica se poi ci sono dei server, come ce ne sono tantissimi, che sono talmente impallati che stanno mezz'ora girando. Dove sono io, guarda, c'ho a disposizione 40 giga, hai sentito bene, di fibra ottica, tutti effettivi, non c'è lo speedometer e devi vedere che è un proiettile, nonostante tutto, secondo il sistema va, gira, perché è inutile avere una grossa velocità se poi dove stai andando è talmente impasato che ti devi fermare. Sì, infatti, puoi avere il 5G per i mobili, puoi avere il gigabit o quanto è, adesso non so quanto siano arrivati di fibra ottica, più velocità, se vai in siti che sono presi d'assalto da migliaia, decine o centinaia, sono milioni di utenti, voglio aspettare, vedi che gira, e non... già presito almeno, sì, infatti. Questa velocità, sì, teorica, però poi tutto viene ridimensionato. E poi, è detto tra noi, le altre schede, il 2, c'ho anche uno Xiaomi Redmi Note 5, pure lì ci ho voluto mettere la micro SD, eppure lì è superflua. Capito Gianfranco? Ho detto perché se mi si rompe uno, no, e lo devo mandare in assistenza, magari sta un mese fuori, io rimango senza, allora. Capito? Poi ce n'è davanti, ce n'è, a buttarne ce n'è, dai. Poi questi Xiaomi sono un po' ambigui, adesso capisco cosa volevano dire, come dicevano, per utenti consapevoli, perché lì Xiaomi, questi aggiornamenti sono un po' lonfietti, no? Aggiorni facili di sicurezza, no? O aggiorni la MIUI, come la chiamano loro, no? Un'interfaccia grafica, tutta la personalizzazione, e un giorno non ti funziona il wifi, un giorno non ti funziona la telecamera. Mentre Huawei, ogni aggiornamento che fai, vedo che tutto è perfetto, funziona tutto, Xiaomi ancora è un po' così, un po' così. Certi aggiornamenti peggiorano certe cose, ti rallenta, ti mangia più batteria, ma poi cresceranno anche loro, dai, diciamo. Huawei ancora più, un gradino più affidabile. Poi a quanto ho letto fino a qualche anno fa, con i Xiaomi era scritto Xiaomi, già ci siamo capiti, su YouTube dicono tutti i Xiaomi, dice anni fa aggiornare uno Xiaomi era un azzardo perché erano talmente in versione beta i aggiornamenti che poteva briccarti tutto lo smartphone, ti diventava un mattone e ce lo dovevi usare come fermacarte. E ancora non sono perfetti, dai, con gli aggiornamenti, con le patch di sistema e tutto. Sì, ma sono sempre quelle cose, tanto alla fine si usa per telefonare, quindi tutto l'altro è di scarsa importanza. Tanto ora in macchina non lo puoi usare. Se passano anche anche non so se siano già passate le nuove norme, sono veramente guai grossi perché si sequestrano istantaneamente la patente, te la tolgono proprio al volo, anche alla prima infrazione, appena ti vedono. Poi stanno iniziando a mettere, non so se li hai visti, i motociclisti in borghese, che se ti pizzicano il telefonino in mano, ti fermano e sei fregato. Stanno facendo molti servizi italiani. E quindi, se non c'hai la voce, poco c'hai da fare. Tu pensa che io anche la voce che legge i messaggi, ma proprio sono anni che sono usato SMS, tutto fanno parte da casa da mare un po' anche. Io se che alla guida non rispondo, se io sono alla guida in macchina sento squillare, io se posso mi accosto, se c'è posto da accostare, se c'è una piazzola di sosta, se sono fuori, se no non rispondo, preferisco la prossima fermata richiamare io. Non mi piace, non mi sento sicuro io col telefono alla guida, assolutamente. Mani sul volante e sul cambio quando necessario. E anche l'altra volta lì alla Bretella, no? Una che proveniva da Latte Dolce lì, arriva a pochi metri, loro in teoria avevano lo stop, arriva questa col telefono alla sinistra, con lo smartphone, con lo sguardo dritto, non ha nemmeno mosso la testolina a vedere se arrivava, niente, bruciato proprio lo stop o la rotatoria che sia, non so. Io avevo già impegnato la rotatoria, questa appena su mi stava avanti, col telefono attaccato all'orecchio. Racconti Zeddy. Ma c'è gente allucinante, proprio. Ma poi ci sono i viva voce, i kit viva voce, li vendono anche i marocchini adesso. Ah, li vuoi comprare? gli auricolari, non lo so, non so se l'auricolare piuttosto sia permesso, non vorrei che isolasse troppo, sai, l'acustica, no? Ma dico, usa viva voce, no? Costa, ce l'hanno dappertutto, viva voce, c'erano i cinesi, viva voce per auto, ma preferiscono tuttora stare con la... No, io non rispondo, è risolto il problema. Poi a mio costo, una volta l'ho accostato, andiamo, certo. E vabbè, vabbè, io ero già un po' prudente di mio, io usavo il casco sul cinquantino, nonostante fosse maggiorenne, quando non era obbligatorio già lo usavo il casco, salvo che non ci fossero 40 all'ombra. Le cinture le ho sempre usate anche prima dell'obbligo, perché nelle macchine mie airbag non c'era, nelle macchine vecchie che avevamo noi. Ho detto, meglio che uscirci dal vetro con la testa mettendo la cintura, no? Invece c'è gente che non si sente in dovere di metterla la cintura, capito? Gli dà fastidio. Vabbè, poi vabbè, l'airbag farà la sua parte, ma c'è chi ha macchina vecchia e non ne mette le cinture, non si sente in dovere di mettere, ma forse danno poco valore alla loro vita, non lo so. No, invece è proprio un errore fatale quello di non mettere, cioè di non mettere le cinture su macchina con airbag, perché si spacca la testa, perché quando l'airbag praticamente esplode, automaticamente esplode anche la carica che hanno le cinture, e di colpo la cintura ti sbatte indietro sul sedile attaccato al poggiatesta. Poi ti arriva la pallonata, che non è cosa da poco, dell'airbag, però se sei vicino non è tutte queste cose, ti prendi uno di quei cazzotti e insomma non è piacevole, è anche molto pericoloso. Davvero, io certo, per evitare danni peggiori, però deve essere una bella sberla l'airbag in faccia, ma adesso è un bel cazzottone. Vabbè, ma la gente è matta, quel povero Cristo di 27 anni lì a Canica, l'ho letto oggi sulla Nuova, pare che quello che è morto sulla macchina che ha sbandato, no? Che era il passeggero, l'autista era bevuto, ubriaco, poi bisogna vedere quanto lo sopporta l'alcol. C'era un valore di 2, no? Quindi 4 volte il limite consentito. Magari era gotto, ha perso il controllo dell'auto, purtroppo stava sopraggiungendo una, cos'era, un Alfa 146, e c'è morto, è morto l'amico. Te le immagini? Ecco perché noi all'epoca, da giovani, selezionavamo molto nel caso da chi farci accompagnare o riaccompagnare. Io sceglievo sempre gente assennata, che non beveva, proprio che non beveva possibilmente, no? Ma certi erano mine vaganti, o bevuti o fumati, o un po' di peggio, lasciamo perdere. Infatti si evitava di chiedere passaggi da ragazzi a gente che, capito, che non era lucida, assolutamente. Quindi si trova a fare una causa civile e qualunque cosa ci abbia non lo mettono sull'astrico, dovrà vendersi anche la casa per pagare i danni arrecati, sia in termini di vita umana sia in termini di quello là che è finito in ospedale tutto fratturato con la macchina distrutta. questo sta anche correndo, perché se hai visto i mezzi, cioè io la strada la faccio molto, molto spesso, che è quella che porta la 127 bis, quindi quando vedi che ti lì davanti alla motorizzazione, strada larga, tranquilla, eccetera, per fare quello che ha fatto, aveva una velocità molto sostenuta. Quindi sono cose molto brutte, fare fuori una persona in quel modo, soprattutto per una colpa anche che non sei molto, molto sincaro dal punto di vista fisico, perché ti sei voluto scolare un po' di birra o quello che sarà. E poi anche senza assicurazione, nella speranza di fare il turbo. Adesso chiunque, non so se hai visto l'applicazione, chiunque può controllare se la macchina dai degli altri in regola, quindi se magari ti metti lì a visionare una targa anche per gioco e scopri che non è assicurato e chiama la polizia, la sequestrano l'auto immediatamente. Sì, ho visto qualche sito, qualche applicazione, metti la targa e ti dice se è revisionata, se è assicurata, poi vabbè, i dati magari più sensibili sono di invisibili solo alle forze dell'ordine, con certi richiedono l'accesso, no? L'accesso con nome, utente e password. Però caspita, comunque tuttora c'è gente che è fuori testa. Privi di assicurazione, revisione, magari patente ritirata anni prima, o patente mai posseduta, girano in macchina, magari anche sbronzi, aggiungiamoci anche quello. Poi se investono qualche ciclista, qualche pedone, scappano, cosa devono fare? E l'altro giorno in via lì a Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, uno non so se ha fatto un incidente, o l'hanno toccato ed è andato a sbattere contro un'altra, insomma la stessa macchina priva di qualsiasi cosa, di tutto. Lui aveva la patente ritirata o scaduta 5 anni prima, questo è scappato dalla macchina, ma poi dalla targa sapevano all'istante di chi era. C'è inutile anche scappare, rimani lì, ti assumi le responsabilità, perché poi quello che credi di aver risparmiato, per esempio, se noi che già non siamo in felici acque, se noi non possiamo pagare l'assicurazione un periodo, no? Può capitare, ci siamo andati anche molto vicini, ci abbiamo il garage di proprietà, mettiamo la macchina dentro, rimane lì fino a nuovo ordine, come per la moto. La moto mia l'ho fermata perché non potevo pagarmela di tasca mia più, capito? E non solo di tasca mia, nemmeno. Insomma, non potevo tenermela, ce l'ho in garage sperando sempre in di migliorare, di avere i soldi per l'assicurazione, la revisione, perché era da revisionare. E invece c'è gente che se ne frega proprio. E poi stessa notizia hanno fatto vedere Palermo, Napoli, quelli che vanno a prendere i figli a scuola in due, in tre sul motorino, se non in quattro, bambini piccoli, senza casco, certi non avevano, non solo non avevano assicurazione, ma manco targa. C'era una signora con proprio il motociclo, il ciclomotore che fosse, era privo di targa. Cioè, lì è il paese di Balocchi, capito? Non so come vivano, era Palermo, uno Palermo e uno Napoli. Sì, ma è gente da faccia, ma non sai quanti ne incrocio io. Infatti io utilizzo anche moltissimo, anzi, guarda, l'ho upgradata, diciamo, sistema ancora più potente, varie telecamere, sia davanti sia dietro, che identificano anche il guidatore. Io ho certe scene che fanno paura veramente, incidenti scolati, insomma tutte quelle belle cose lì. Ma gente che la prende prendere parte dal muro. Mi sto aspettando solo qualcuno che me lo venga addosso, così che scappi, eccetera, ma tanto problemi di identificarlo non ce n'è. Del tutto registrato, sia la guida, sia la posizione, sia il luogo, quindi non scappa. Guarda, ci sono tanti filmati anche su YouTube, di quelli sono molto usati in Russia, no? Perché in Russia lo sai, c'è la giungla per guidare un'automobile, è molto peggio della situazione che abbiamo noi qua. E quindi devi vedere certi filmati, cose assurde. Li ho visti. Guarda, le cose più folli le ho viste in Russia e in Cina anche. Anche la Russia vedo che è messa bene, cioè le macchine ferme allo stop col rosso, no? Sai, grandi incroci, no? Come può essere Mosca, nelle grandi città. Aspetta che abbasso il volume qui. Questo supera tutte le macchine ferme, lo so, passa il rosso pieno, ma poi ha una velocità sostenuta e poi arriva il camion che c'ha il verde o quello che è, un'ecatombe, moto volate polverizzate per aria. Ma lì bisogna essere a livello di proprio incapace di intendere e volere, perché uno è malato di mente a guidare così. Cose folli, no, qua non siamo ancora a quei livelli, lì è cose incredibili proprio. E ho visto che molti si dotano di queste dashcam anche buone, certe poi sono full HD, se non 4K, davanti, dietro, non so se ci siano pure laterali adesso. E ti compariva a schermo anche la velocità del tuo stesso veicolo, no? Modo da provare che non stai correndo, poi vabbè, se corri ti fai infrazioni, ti freghi da solo, no? Ma lì già sono cose costose. No, io avevo preso quella Select Line 29,90 da Auchan, no? Che c'è una sua batteria, oppure va col cavetto suo attaccato alla cenisigari, no? Appena metti in moto le registra, no? Inizia a registrare, come spegne il motore, si spegne. Certo, non è full HD, mi pare che sia 640x480, 800x600, qualcosa del genere. Però almeno mi permette, cioè, posso dimostrare di non essere passato col rosso, perché tanto se esce uno col rosso e ti viene addosso, ti dirà che tu sei passato col rosso. Capito? Tanto meglio averla, per quanto sia una cosa proprio minimale, ridicola, che poi è quella stessa porcheria che vendevano su DMC Shop, no? Dashcam della DMC Shop, solo che loro te la spacciano per full HD, magando, ma dove, ma quando? A parte che la qualità del sensore è pessima, capito? Però vedi, non è che non vedi. C'è lo schermino lo stesso a colori, ripiegabile, la conoscerai. Io che sono povero mi sono preso quella, tanto per averla. Va bene, dai. No, io ce l'ho sia anteriore che posteriore, dato che c'è qualcuno che sta a coda in maniera micidiale. E le mie riprendono anche le targhe. Davanti ai 4K e in funzionalità duale sono Full HD pieno, quindi in ogni caso la targa si vede come. Ho visto qualche marca su questi video, no, di YouTube. Sai, insomma, l'impressione magari c'era una marca dashcam modello, però non ho idea di quali siano i modelli performanti, non che la debba mettere io, no? E comunque ci vorrebbe dietro, sì, perché a un conoscente, no? Era fermo allo stop lui, no? In attesa di spazio per passare, questa arriva da dietro e lo tamponicchia, no, ma niente di grave, tanto Bottarella ha incicciato il paraurti, sul momento sembrava, no, il tamponatore tranquillo, va a dichiarare invece il tamponatore all'assicurazione, no? Se questo amico era fermo allo stop, ha messo le retromarce e le ha dato addosso. Ui. Mamma mia, è una cosa, guarda, manderebbero in galera una persona per salvarsi, poi cioè paga l'assicurazione al limite, sì, poi ti sale un po', va in malus, ma c'è gente allucinante. È già roba da andare su due ruote, in moto. Non conviene più andare in moto perché ti, secondo chi trovi, ti passa sopra e ti distrugge, ti disintegra. Ma a quel punto è meglio averne quattro le ruote, forse ti salvi se le velocità sono accettabili, sai, in città, no? Se sei fuori città, mamma mia, mamma dei turchi. Sì, tieni presente che comunque se sei in città oramai è tutto coperto da telecamere, quindi quando uno fa quei giochetti lì che può fare tanto il furbo, per fare una denuncia, insomma, vanno a visionare le telecamere, si mette nei guai e si diventa anche una tentata truffa nei confronti dell'assicurazione. So che magari ti succede un incidentino, no? Fai la denuncia, magari chiedi se l'autorità può avere i filmati dell'incrocio in questione, e poi succede puntualmente quel giorno la telecamera dell'incrocio non funzionava e rimani fregato. Allora meglio avere qualcosa sulla macchina, anche di minima, una cosa minimale, no? Vabbè. Avevo tentato di metterla anche sullo scooter, però non riuscivo a trovare una posizione buona o un aggancio a manubria, non c'era spazio proprio, non facevo a metterla, le vibrazioni poi non era fattibile, dai, o me l'attaccavo al casco come fanno accetti con la GoPro per fare prove, no, video dimostrativi, ma non va bene, deve essere fissa al veicolo con l'alimentazione. Per esempio la tua, che marca mi puoi dire? Che marca è? Non ho idea delle marche di questi prodotti professionali, quali siano. Ma professionale, come al solito, è una parola un po' grossa, Se fai sul professionale, quello vero, tipo i sistemi che utilizza la polizia Mercurio, che ti identifica anche le targhe tramite terminale, stiamo parlando di migliaia di euro. Ma rimanendo al prodotto normale, tu devi guardare solo una cosa, la cosa più importante in assoluto è il sensore, quindi che abbia un sensore di finale sono, che abbia un processore da una nota, o in alternativa c'è una barella che è molto americana, molto performante, quindi quelle sono le caratteristiche. Poi la macchina, la marca può essere qualunque, però deve rispondere a quelle caratteristiche. Certo, su molti prodotti devi andare a tentativi, però io ho provato ad esempio per quello, io ce l'ho anche sulla bici tra l'altro, ed è sul manubrio, perché utilizzo quelle che si chiamano sport cam, ce l'ho da qualche anno, la marca, la Umox, che devo dire mi ha sempre dato delle grandi soddisfazioni. Oppure c'è anche quest'altra che si chiama Sigstar della Sicom, una 4K e va bene, ovviamente io li utilizzo sotto i 4K perché sennò ti fanno dei filmati lunghi di dimensioni stratosferiche, quindi è meglio, però se su una moto te la puoi mettere ti prendi una fotocam, ci hanno anche da fare per il manubrio, il sistema staffa per il manubrio, la metti di lì, la metti a batteria, poi se riesci a togliere sulla moto c'è anche la batteria, si mette sul produttore a 5 volt, sono signore, e non hai problemi, la importi anche come movimento, quindi non c'è neanche problema l'accensione, quando si muove lei riprende, e neanche te ne accorgi che funziona. E costa anche molto poco, tra l'altro di norma sono molto ma molto più performanti di quella che c'hai, che io conosco, sono le prime che ho avuto, ma sto parlando di 10 anni fa, quella che hai nominato prima, che c'ha lo sportellino che sta per il video, che puntualmente si brucia, poi tra l'altro quando rimane un po' acceso. Metti una di quelle che costano, guarda, io siccome in bicicletta mi è saltata la telecamera e non l'ho più trovata perché ero su un po' sullo sterrato, quindi neanche me ne sono accorto, ero impegnato a stare attento alla strada, quindi l'ho perduta, me ne ho preso un'altra, l'ho pagata appena 25 euro, ma è identica a quella che avevo prima e vanno benissimo, guarda. Sì, quella c'è da un po', ma credo che Shan tuttora ce l'abbia, forse anche la DMC Shop, no? Cerca di svendere, sono cinesate proprio, per fortuna quella non si è rovinata, ma anche se si rovinasse si è ripagata, in questi anni di funzionamento si è ripagata. La cosa carina è che praticamente senza spezzare il filmato puoi decidere se suddividere, se no farebbe un filmatone enorme, se tu, come hai detto tu, non lo suddivide in pezzi da 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti e anche oltre, capito? Per cui se devi vedere solo un'azione, no? Sono spezzoni da pochi minuti, no? Poi, no, ma non perdi nulla, proprio è automatico, perderei un fotogramma forse, un fotogramma, se una spezione l'altro. Poi quando la memoria micro SD è piena, ricomincia da capo, no? Non devi formattare a ciclo continuo. Solamente se uno ha un incidente, se la conserva, la toglie, in caso di contestazioni, ma siccome le assicurazioni sono delle truffe legalizzate, capaci che ti dicano, che vadano a dire che magari il filmato si inventano di tutto pur di non pagare, capito? Magari giustamente magari hai anche ragione, che magari non è una prova, che il filmato che ha messo tutto, si possono inventare, che è un illecito, che ma non lo so, fanno schifo le assicurazioni, tutte legate alle banche, poi è tutta la stessa cionfra. Beh, dipende dall'assicurazione, l'assicurazione sono anche quelle abbastanza seria, quella che capita a me, che sono già da tanti anni, che è online solo, è estremamente precisa, anche troppo, anzi quest'anno fino mi ha fatto un mega sconto da paura, veramente non seguo, proprio perché non ho mai rotto lo scatto, non ho mai avuto niente. E comunque il filmato è a discrezione del giudice, certo se porti il filmato in cui quello ha detto che ti sei sbattito tu e magari lui si vede che è passato con rosso, c'è poco da dire, non è che il giudice possa ignorare un filmato, se è accettato come prova ha chiuso, non è l'assicurazione che decide se accettare o meno una prova, il giudice, dopodiché sono, come si suol dire, uccelli per diabetici o cavoli amari, insomma quelle cose lì, perché lì allora si può appunta sia la tua assicurazione per la condanna del tipo questo risarcimento, e sia poi anche la legge per metterlo, poi se lo denuncia anche per calunnia ancora peggio. Io, anche se quindi a discrezione del giudice, cioè se li gira, se li si è antipatico dice che non ha nemmeno valore, no? Figurati. Un CB che non entra più adesso, che non entra da un bel po', no? Quando gli avevo detto di questa, vabbè, chiamiamola dash cam, la mia, dice no, ma è illegale, perché così allora dice, cioè se tu mi stai dietro mi stai spiando, la privacy, non so che cosa. Io gli ho detto, oh, ma non è che stai pedinando una persona che la stai seguendo dovunque vada. Passi per i cavoli tuoi, fai quello che devi fare, poi certo non sai postare su YouTube i video di quelli che vanno a mignotte e tu li riprendi, ci mancherebbe. Serve solo in caso di tocchiamo ferro, incidenti. E lui era tutto quasi impaurito, ma la privacy, ma se ci sono telecamere anche al cesso, ovunque, a ogni angolo di strada, poi con gli smartphone più controllati che mai, anche se la GPS è spenta e tutto, poi ti accorgi di sorpresa, facciamo perdere. Infatti non capisco, ma mi aveva pure messo la pulce nell'orecchio, ho detto ma non è che... A quanto pare non c'è divieto di usarle, ti risulta, no? No, anzi, in certi paesi addirittura si pensava di mettere anche quello come accessorio di sicurezza obbligatorio, perché è risolutivo sia per le assicurazioni sia per... Tu pensi che già molte assicurazioni mettono quello a fare per il controllo velocità, frenata, eccetera. Secondo me è una cazzata, sarebbe molto meglio mettere la telecamera, la dash cam, e così almeno sia una prova effettiva se il cliente ha ragione o torto. Mentre quell'oggetto lì non sai cosa trasmette, non sai che dati manda, perché dice anche quante frenate fai in un giorno, e penso che l'assicurazione queste cose non debbano riguardare, mentre quando si è svolto un incidente è molto più importante. Riguardo a quello che hai detto sulla privacy, ci sono già state varie sentenze, varie specifiche da parte della garante. La dashcam in Italia è assolutamente legale, primo, come tutte le telecamere che inquadrano diciamo le parti esterne, è ovvio che queste immagini vanno intese come uso personale di sicurezza e quindi non devono essere diffuse sul sistema di massa come può essere internet. Cioè, tu non è che dici quello lì me l'è venuto addosso e lo posti su internet, stai commettendo un reato, violazione della privacy. Quel filmato lo devi prendere e darlo alla polizia, che lo valuterà, lo porterà come prova e sarà utile, soprattutto in giudizio. Di norma vengono accettati, perché oramai tutti i leggi giornali, tutte le telecamere di videosorveglianza, che siano dei negozi, che siano dei privati, appena succede qualcosa, di lì nella via, vanno, comandate, ricordate, lasciano tra sì, cortesemente, ci faccio la copia, anzi, ci prendono proprio la scheda o ci hanno le chiavi a alta capacità, si fanno tutto il filmato e poi se lo analizzano nel laboratorio, capito? Quindi non è come pensa molta gente, privacy, per mettersi al sicuro. Ripeto, ci sono applicazioni che già basta inquadrare la targa con la telecamera e ti dicono se sei assicurato o meno. Quindi certe furbate oramai sono molto molto molto rischiose. Però c'è gente che forse non ha nulla a perdere, che magari la macchina non è manca intestata a lui, tutto non l'ha tenente, dice tanto cosa, dice vabbè faccio la galera, non pago né un euro, mi faccio un mese di galera, nemmeno, ormai chi è che va in galera? Già per omicidi certe volte vedi 5 anni, 10 anni, pulce, buona condotta, il sovraffollamento, indulti, indultini, alla fine non, manco gli omicidi, cioè l'omicida, diciamo, ci fa tutto quello che dice la sentenza, anzi se ne fa un quarto ce ne fa. Ma sì, praticamente secondo me le dashcam si integreranno con tutto, come tu freni, velocità, forse avranno pure il GPS integrato, tutto magari interfacciato con col sistema della macchina, Android Auto, quello che è, no? In modo che sai esattamente cosa fa da scatola nera, amico, come una scatola nera degli aerei, così con le macchine. E magari ti misura anche il tempo di reazione in frenata, sai, tutto possono inventarsi. Per esempio mia zia, no? Le hanno proposto, non era obbligatorio, però hanno proposto un abbassamento della rata semestrale se si piazzava questo GPS sotto il cofano, no? Sulla batteria emessa, no? Una piccola centralina attaccata alla batteria, appunto, che rileva la velocità in caso di incidenti. Vabbè che lei guida come me, cioè ti addormenti come ti puoi benissimo addormentare, guida rilassata, non corro, eccetera. E lì ha accettato per avere un po' di sconto, ma lei è tranquilla, non beve, non corre, non telefona la guida, nulla, nulla. Usa persino le cinture. Io ripeto, lo considero un accesso di inutile, preferire fosse obbligatorio la telecamera, anche la telecamera, le dashcam hanno il GPS oramai, quindi è anche molto preciso visto. E niente, ci segna la velocità in base al GPS, quindi è tutto affidabile. E niente, è così. Ma purtroppo si deve armare di 100.000 attrezzi per avere un minimo di tutta, perché la sicurezza al 100% non trova nessuno, e anche se ti metti dentro una sfera di cristallo non ti proietti, però almeno qualcosa è fatto, dai, non si è rimasto inerme. Riguardo poi al fatto che questi, come li vuoi chiamare, delinquenti, malandrini, rimangono fuori. Certi posti a comandare, evidentemente hanno ritenuto opportuno applicare la legge in maniera molto, molto leggera, mentre invece in altri paesi, quando fai le stesse cose, ti dicono proprio la data in cui uscire, non stanno a dire 3-4 anni, no, riuscirà tra 20 anni, quando ci avrà 70 anni, e te li fanno fare tutti. Infatti poco fa hai parlato di cosa fanno i russi, no? Tu guardati i filmati delle carceri russi, ce ne da impallidire, non sono neanche delle carceri, perché sono non sono per esseri umani, forse gli animali fanno anche meglio. Per non parlare di certi paesi centroamericani, sudamericani, o sempre in Asia, roba asiatica, proprio una bolgia infernale, sembra di essere in gironi danteschi, però immagino che ci siano la peggior specie di assassini, di proprio, capito? Più grande il paese, più grande la delinquenza, dipende. E cosa ti volevo dire? Mamma mia, aspetta che la vescica mi sta per scoppiare. Adesso tu non ami social, ho capito, no? Io Facebook, cosa è Facebook? Roba che si mangia, niente, no. Giusto WhatsApp per i CB, ma non mi piace proprio spiattellare come quelle sgallettate che si fanno i selfie ovunque, anche al gabinetto, mezze nude, mentre trombano. Oggi sono, stamattina ero qui, adesso sono qui. Non mi piace questo di certi poi mettono foto di fili piccoli, non sa mai chi cattura queste foto, chi dove va a metterle. No, no, non è così, ci vuole un minimo di riservatezza, non ce n'è più. Poi tutti filmano tutti adesso, cellulare alla mano. Io, per esempio, se ci sono, se devo fare una foto al mare, mi preoccupo che non ci sia gente nell'inquadratura, non sia che uno giustamente può dire scusi ma sta riprendendo anche me, non vorrei essere ripreso, cioè, senza autorizzazione non puoi riprendere nessun comune mortale, tantomeno com'era, ospedali, ma a me pare nemmeno un pubblico ufficiale può essere ripreso nelle cose delle sue funzioni da senza autorizzazioni, poi non si sa chi li dica. E se tutti ho il telefonino in mano, quando ci sono risse, casini, e che ne so, quasi sono tutti a telefono in mano. E anche a me potrebbe non andar bene che fai una foto, metti sto discutendo con uno, solo discutendo, e questo che mi riprende, che non si sa se ti metta su YouTube, su Emule, su Torrent, che ne so io. Capito, non c'è più, sembra tutto lecito adesso. Tu non so se conosci a cosa dove volevo arrivare. Non è che hai visto mai la serie Black Mirror? Parla della follia proprio dei mezzi di, diciamo, di social network. Parla di un ipotetico futuro dove vengono estremizzate tutte le forme tipo social network, tutta roba legata alla tecnologia. Certe puntate sono veramente aberranti. Ce n'è una in particolare, no? Dove praticamente tutta la tua esistenza e quella degli altri era data da questi feedback che ti davano le persone che ti incontravano, quindi tutti ben vestiti, tutti i sorrisi falsissimi, dovevi dare il voto più alto possibile, addirittura questo smartphone era interfacciato con la corteccia visiva, cioè tu come vedevi una persona ti appariva l'aura e il suo punteggio, il suo feedback. E tutta la società era incentrata su quello, sull'indice di gradimento di una persona, per cui se avevi un indice, se scendevi sempre più di indice di gradimento, il massimo era 5 stelle, era l'utopia per dire, no? 5 su 5. Man mano che calavi di punteggio avevi lavori sempre più miserabili, eri sfavorito per quanto riguardava la salute pubblica, addirittura se incontravi uno con punteggio basso non dovevi neanche salutarlo, perché se gli altri ti volevano salutare questa persona con punteggio basso, allora ti criticavano e ti davano a loro volta un punteggio basso. Una roba folle, proprio. Addirittura uno aveva bisogno di un trapianto di cuore, no? Aveva, che ne so, un punteggio di gradimento di 4.2, no? Doveva avere il cuore, niente, il cuore è stato fregato da uno che aveva un punteggio di 4.3, capito? Era più popolare lui e si è beccato il trapianto e quello è rimasto a crepare. Una cosa, e anche altre puntate lasciamo perdere. Secondo me ci arriveremo, perché già adesso i social sono un mezzo delirio. Ricordati, Black Mirror, una serie inglese. Sì, l'avevo per vista come titoli o su Amazon Prime oppure su Netflix. Comunque, stavo facendo una considerazione, ma siamo sicuri che quello lì che ha perduto il cuore sia stato così sfortunato, perché dunque varrebbe veramente la pena vivere un mondo in cui non si viene considerati per i meriti ma solo per i like dati, punto di domanda. Io, è vero, sì, quella, poi mia zia ha lo smartphone, si per le mappe, per queste cose, però lei per i social va bene, è una persona grande, ma è proprio Gianfra, devo scappare in bagno, mi aspetti? Un minuto. No Marco, ti saluto perché ho visto che è tardissimo per me. Domani mi devo portare presto. Quindi ti saluto, dai, proseguiamo il discorso quando ci risentiamo. Stammi bene, buona serata. Io scappo via perché non mi ricordo che era così tardi. Ehi Gianfra, da, allora, per terminare, da. La mia zia è proprio socialfobica, non, già per lei come adesso è una follia, sputtanamenti, coso, video di infortuni diffusi, tutta la propria vita documentata e messa in rete, per gente che magari ti vota solo per avere il feedback a sua volta, mi già adesso. Detto ciò, c'ho la vescica come una zampogna, Gianfran, ben sentito, dopo tanto ci risentiamo, dai. Cercheremo di tenere sul canale, dai. Vedo che abbiamo ingranato, dai. Ciao, buonanotte, ciao. Ciao, buona serata, Marco.